ma non fa, è una, ma guarda che mia moglie non è mia moglie, non è mia moglie, è una signora che ha una sua testa, una sua politica e una sua esistenza. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Un quarto di vita passato a studiare per diventare anonimo dottore. Avrei preferito una laurea d'onore in canti ed in vino, mio caro signore. Ed ora che sono benvenuto tra la gente, educato a studiare come solo dovere. Io ho concluso il mio intervento rivolgendomi agli studenti: ricordate sempre quello che a me disse il giorno iniziale del mio master a Chicago, quello che poi divenne Nobel, Bob Barrow. Cioè, diceva, la distinzione è che chi ha un titolo di studio inferiore può al massimo rubare sulle carrozze dei treni. Chi ha un master può rubare un'intera ferrovia. È miseria. Un quarto di vita passato a studiare per diventare. Cari ascoltatori della Zanzara, questa non è ferocia gratuita. Questo non è sciacallaggio. Sono stato accusato da molti di voi, per mail, messaggi SMS, Twitter, di essere troppo duro. Questa è la realtà. La dura, tragica realtà. Avete sentito prima quella frase sul master, sui titoli? Questo Arrow, Bob Arrow, ovviamente non esiste e non ha mai preso un Nobel. Guardarmi allo specchio, pensare. Cioè, in realtà l'ha preso, ma nel 72, quando Giannina aveva 11 anni. Ma sentite quest'altro, ormai ce ne sono a iosa, le potete trovare ovunque, oltre a quelle che abbiamo scovato noi, anche quelle tirate fuori da Dago Spia, eccetera, eccetera. Ho preso una laurea, la seconda laurea da quando sono andato in America a prendere il master, continuavo a lavorare, ho anche offerto a tavoli, non me ne avrei. Questa è la cosa che mi ha insegnato mia madre a fronte di scarpe. Io stavo nel formaggio, sì! Eppure esisteva un sogno diverso, ma in qualche modo. La cosa più incredibile è che. Sentite il nuovo presidente del Movimento di Gelino che dice: resta candidato premier. A parte che ormai non si può fare altrimenti dal punto di vista pratico. Appunto. Però rimane il nostro candidato premier e siamo orgogliosi di averlo candidato nelle nostre liste. Le decisioni. Eppure se provo ad alzar la voce, a mettermi in piazza con gesti di pace. E poi si dice, lui stesso lo dice, no? Non ho mai usato titoli accademici per ottenere qualche cosa, eccetera, eccetera. Io faccio questo mestiere pubblico da 30 anni, non ho mai speso titoli accademici, che non ho, per posti, incarichi, di qualunque tipo. E nel tempo si è accumulato su internet una serie di attribuzioni di titoli che non ho, che non ho mai usato. Detto questo, la contestazione di Luigi, che insegna a Chicago, ma qui dicono che tu hai preso un master a Chicago Blog e ne hai anche parlato, a Chicago Book, scusami, e ne hai anche parlato, io ho detto, correggo subito, non è così. Avrei preferito. Sì, ma spesso si vanno a fare conferenze, eccetera, dove ben retribuite, anche perché c'è quel curriculum che viene enunciato durante le conferenze. Non è che non serva a nulla enunciare e scrivere in un curriculum. E poi ancora con questa storia di internet, non è che c'è il gomblotto di internet, è colpa di internet. Dai, su. Ragazzi, bisogna essere seri in queste cose, un minimo seri. Siamo tutti un po' cialtroni, ma su alcune cose bisogna essere rigorosi. Questa è la Zanzara, 800 24 00 24. E tu muto, no, Parenzo, muto. Ascoltavo questo Jacques, questa introduzione forte che hai dato alla presidenza. Ma sentiamo Grillo. Guarda, perché un Grillo al giorno, aspetta, c'è tempo. Ma chi è che mi telefona? Pronto, chi è? Ecco, mandali a fare in culo, dai. Francesco, caro, sono in diretta alla Zanzara. Ecco, ciao, mandali a fare in culo, per favore. Un grillo al giorno toglie le preoccupazioni di torno. La mia generazione non ha perso. Il mio grido è: arrendetevi! Siete circondati dal popolo italiano! Non ce la fate più a fermare! È un'epidemia! Arrendetevi e io vi prometto che non useremo nessuna violenza su di voi, solo affetto, amore. Come ai malati di mente, vi accarezzeremo. La preoccupazione di chi ha già un domani senza pensione, senza pensione. Contro la RAI, contro la RAI quanto mi piace. Sentiamo. La RAI, 7.000 dipendenti, 200 milioni di deficit. E ci teniamo tre RAI per farci prendere per il culo. Ne basta una, senza politica e senza sponsor dentro. Contro TGCom 24. Ma in qualche modo qualcuno l'ha perso. C'era TGCom a Torino. A Torino c'erano 70.000 persone. Sta a sentire, c'era il TGCom in mezzo. Vedo la cosa, la telecamera che spunta. E dico, chi siete? TGCom. E dico, ma fai vedere un po' la piazza, c'è 70.000 persone, sei in diretta. E mi inquadrava quattro vecchi davanti e me da solo. E noi stavamo guardando, ci arrivavano i Twitter da qui, perché la comunicazione ormai è globale. Stavamo vedendo in diretta quello che trasmetteva il coglione lì, hai capito? Allora dico, alzate la telecamera, fai una zoomata, no? Fai vedere quanta gente c'è per soddisfazione ai tuoi spettatori. No, no, no, come no? È andato lì, l'hanno sollevato e ha dovuto fare una panoramica. Mentre faceva la panoramica ha messo la pubblicità. Sono arrivati milioni di vaffanculo a tutto il TGCom e che se lo portino via questa informazione collusa, vergognosa. Oggi insieme per il mio futuro, per il tuo avvenire, la laurea non serve, ora serve. Allora, c'è anche per Monti oggi. Senti cosa è riuscito a dire il signor Monti, Mario Monti, presidente del Consiglio, Parenzo. Inginocchiati un po', inginocchiati un attimo. Ancora, no, non mi inginocchio per nulla, ancora per breve tempo, comunque. Beh, non si sa, che ne sai, magari fa un esploit. Oppure per un miracolo di inciucio fanno un governo tutti insieme, Monti presidente del Consiglio. Tutto è possibile ancora, mancano pochi giorni. Magari non ha perso la speranza il signor Monti, però stamattina è riuscito a candidare chiunque alla presidenza della Repubblica. Inizio a Radio 1 con Bonino, beh, tra le papabili, senti. Le piaccio di più perché ho proposto, o mi andrebbe bene, una donna al Quirinale. Le piacerei ancora di più se proponessi Emma Bonino. Posso dirle, non tanto per piacere di più a lei, ma perché penso moltissimo bene di Emma Bonino, che sarebbe una candidata, tra altre, molto buona. Candidata molto molto buona. Poi Napolitano è il mio candidato. Senti, Napolitano è il mio candidato, amico mio. In libertà, parla in libertà. Ma roba da matti, dai, su. Io un candidato l'ho. Non è donna e conosce bene quel palazzo dove ha esercitato l'altissima funzione di Presidente della Repubblica in modo impeccabile, e si chiama Giorgio Napolitano, che può sembrare una persona anziana, ma sappiamo tutti che non lo è. E poi ancora Candido Napolitano e non la Bonino. Mi è stato chiesto questa mattina in un'altra intervista e cosa pensa di Emma Bonino. Ho detto, ma penso molto bene, è stata mia collega per 5 anni a Bruxelles, alla Commissione Europea, una persona di valore, ha fatto molto bene. Allora qualcuno... Allora, in mezz'ora ha candidato Napolitano, la Bonino tra le papabili, Candido Napolitano e non la Bonino. A Monti! Andiamo su, dai, è forza! Confuso. A voi perché Monti dovrebbe candidare qualcuno alla presidenza della Repubblica? Me lo spieghi, te? L'uomo è confuso, passa da una radio all'altra, da televisione all'altra, no? Vabbè, quello è normale, siamo in campagna elettorale. 800 24 00 24, questa è la Zanzara ed è con noi nel giorno del grande casino intorno a Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, buonasera. Salve, buonasera, grazie. Come andiamo? Ah, che trafelatissima. Signora Meloni, tra l'altro, ha sposato Oscar Giannino, quindi... Beh sì, poi ne parleremo anche di questo. Sì. Allora, Giorgia, sì. Pronto? Eccola. Come siamo, col fiatone? Signora Meloni che svetta sui taxi, sì, romani. vota con la testa e con il cuore, non votate con il culo. Noi amiamo le donne, in particolare Giorgia Meloni. Questi due signori si chiamano Raffaele Zanon e Romano Pedrina, sono tutti e due candidati. Beh, ma Zanon è un dirigente ex AN famoso in Veneto. Sì, certo, certo. Allora, che vogliamo fare? Innanzitutto vogliamo chiedere scusa, vogliamo dire che questi sono due imbecilli, due cretini. Io l'ho già fatto, chiaramente l'ho già fatto, ho chiesto scusa, anche se ovviamente non ne sapevo assolutamente niente, l'ho scoperto dalle agenzie di stampa. Sì. E voglio ripetere che questa roba qui non c'entra niente proprio anche con gli elementi sulla base dei quali diciamo ho fondato Fratelli d'Italia, quindi pur non sapendone niente, però mi scuso io a nome e per conto di Zanon e dell'altro candidato che si sono a loro volta scusati. Beh, anche se per in maniera un po' un'iniziativa che insomma nulla davvero ha a che fare con le cose per come le vediamo. Siamo tutti froci, si può io dire? Sono molto avvilita. No, vabbè, insomma, sono molto avvilita perché poi no, davvero, guardate, chiaramente questa è stata una campagna elettorale difficilissima, con un movimento nuovo da far conoscere a tutti. Abbiamo fatto veramente un lavoro straordinario. L'avete fatto conoscere. A due giorni dal voto, finire su tutti i giornali per una cosa del genere, guardate, abilissimo. Lo so, però... Dovrebbe dire che culo in questo caso, perché... un po' che culo, da un certo punto di vista che culo. Campagna elettorale gratuita. Beh, direi proprio di no. Buttiamolo un po' a ridere, su, Giorgio. Si può dire, dai, però si guardate... può dire. Sono veramente molto molto abilita, comunque vabbè. Però si può dire tutti, no, siamo tutti froci oggi, si può dire o no? Oddio, insomma, no, cioè io, cioè dipende da che punto di vista. No, sai quando si dice in questi casi, no, come siccome, siamo tutti americani, no? Tirano voci un po' ogni tanto, anche sul mio conto. No, insomma, quello mica, mica dicevo per quello, no. Per carità, insomma, lei è eterosessuale, diciamola io chiara. Sono fidanzata. Eterosessuale, no. di ferro. Sono eterosessuale. Il giusto. Beh, il giusto, non è che c'è un giusto o non un giusto. No, nel senso di ferro. Sì, cioè, sì, sono convinta, ecco, convinta. Sono convinta delle mie scelte. Beh, no, perché sai, allora, sai come si dice in francese? È un periodo di confusione questo. Sai come si dice in francese, no, Gian Meloni? A voile et à vapeur. Sai cosa significa voile et à vapeur? Scusi se faccio questo sfoggio di francese, ma non lo faccio di solito. Guarda, dovrei saperlo, ma in realtà... No, non lo dovrebbe sapere. A voile et à vapeur significa... Significa che insomma sostanzialmente bisex, che va con gli uomini e con le donne, a voile e a vapeur, uno va a vela e a vapore anche. Okay, bellissima espressione, straordinaria, a voile e a vapeur. È molto elegante. Lei non è a voile e a vapeur. No, decisamente. Io sono una ragazza di solito abbastanza tradizionale. O bianco o nero, ecco. O io sono un po' sono una persona che ha poche sfumature. Accertato questo, i signori Zanon e Pedrina li cacciamo o restano in Fratelli d'Italia? Ma guardi, io penso che alle persone bisogna dare sempre una seconda opportunità. Loro si sono scusati, stanno facendo ammenda, abbiamo tutti quanti preso le però distanze sono bravi ragazzi, da loro. Sono bravi scusati. Ragazzi. No, hanno fatto una cosa, guardi, nessuno la pagherà come la pago io, intendiamoci, perché poi ovviamente ma le persone non distinguono. Non è detto. Beh, guardi, sì, per la mia idea di questo movimento, veramente una cosa distante, però a me è capitato nella mia vita anche di fare qualche cazzata, insomma. Quando le persone fanno degli errori e li poi perdoniamo, se ne rendono conto, io tendo a perdonare, a monitorare per vedere se insomma. Ma no, lei l'ha detto, adesso li perdoneremo per forza, non è che hanno ammazzato qualcuno, dice lei, no? Sotto osservazione, ecco, sotto osservazione, diciamo che non ho deciso, è peggio tema. Dei Forlani. Dove stanno gli appunti? Mi sono perso tutto qua. C'ho domande severissime, difficilissime, domande pungentissime a Giorgia Meloni. Parenzo, ci sei? Sei pronto? Sì, pronto. Ultima cosa su questa storia di omosessuali. Siamo tutti gay oggi, si può dire o no? No, froci no, io lo dico perché lo posso dire, sono stato sdoganato dalle associazioni gay che mi dicono che posso utilizzare la parola frocio perché non è offensiva. Lei può dire oggi, proprio oggi, siamo tutti gay. Per un giorno siamo tutti gay, o no? No, cioè siamo tutti no? amici. Siamo tutti amici. Amici, vabbè, ma era una cosa divertente, simpatica, a favore delle associazioni omosessuali. Sai quando c'erano state le Torri Gemelle, dove siamo tutti americani? No, oggi siamo tutti gay, o no? Ma non lo vuole fare. Ma io non sono mai neanche americana, francamente. È italiana, vabbè. Vabbè. Ma, insomma, senta, ma neanche quello, francamente. Matrimonio di Giannino, se lo ricorda, sì? Sì. Beh. Ma sì, perché sì, così triste? Ma no, esiste sto matrimonio? Sì, esiste, ci sono anche le foto del matrimonio. No, così, per curiosità, no. Non voglio. Sì, sì, sì, ma esiste, è sorpresa, lei ha officiato il matrimonio, ha officiato, cioè quella io che ha celebrato il matrimonio, sono quella che ha celebrato il matrimonio tra Oscar e Margherita. Ero anche praticamente l'unico politico presente alla... Sì, è vero, è vero. Ecco, ma questo è interessante. Siccome lei lì ha fatto l'ufficiale civile, no? Sì. Ma sì. I titoli di... Perché quando uno si sposa, se ben ricordo... Ma non è che deve portare la tesi di laurea? No, no! Dice... Ma tu stai scherzando. Poi dice, allora, vuole lei, dottor Oscar Giannino... Vabbè, lei, ma adesso, dai, Cuccia? Su... Vuole lei, signor Parenzo... No, vabbè, lei se l'aspettava questa cosa o no? E lei ha avuto anche dei rapporti di lavoro, perché, voglio dire, rapporti di lavoro nel senso che avete avuto un piccolo corteggiamento con Giannino dal punto di vista politico, dico, no? Beh, io e Oscar siamo amici, parliamo tanto di politica, abbiamo parlato tanto anche delle scelte che abbiamo fatto, chiaramente perché avevamo pensato anche a una convergenza, poi diciamo ci ha distinto. Meno male a questo punto. Meno male a questo punto. Beh, guardi, io sono molto in difficoltà a commentare questa cosa perché veramente cado dalle nuvole, cioè per me è una cosa... Cioè per lei era laureato col master oppure manco ci ha fatto caso? Vabbè, ma non lo avrei mai messo in discussione, nel senso che poi obiettivamente al di là dei titoli di studio, insomma, tutti sentono parlare Oscar Giannino d'economia e non è che si possa dire che non è competente. No, no, assolutamente, senso, E quindi chiaramente io avrei dato per scontato, fermo restando che da non laureata dico anche che non è assolutamente delle lauree, qualcosa della vita, viva Dio. Però ecco, non è che mi è mai venuto in mente di mettere in discussione i titoli di studio di Oscar. E né comprendo perché lui abbia avuto se la cosa è diciamo stata da lui confermata, perché in tutto questo io il problema che ho evitato di commentare perché no, è tutto non confermato, sono riuscita a parlare con lui, è tutto confermato, cioè lui non ha né le due lauree né il master, dopodiché dice francamente io non riesco a capire perché insomma lui che è una persona preparatissima e quindi diciamo che non ha niente da dimostrare da questo punto di vista abbia diciamo commesso una leggerezza di questo tipo, cioè roba da psicologia secondo lei? Insomma, non lo so, io veramente sono in difficoltà perché è una persona alla quale voglio bene, che con la quale peraltro non sono riuscita a parlare, avrei preferito diciamo avere anche comunque il suo capirci qualcosa, insomma. Però è più grave diciamo la bugia del Berlusca sulla nipote di Mubarak che non questa stupidaggine. Guarda che l'ha votata anche la Meloni, la nipote di Mubarak in Parlamento. Si pente di aver votato quella roba, signora Meloni? La bugia. Ma quella era una roba che noi votavamo per tenere, cioè comunque era un tema di governabilità dell'Italia. Beh, era non una c'è bugia, dubbio. Non banalizziamo, non è che siamo andati a votare nel merito, noi votavamo un provvedimento che era necessario alla difesa del governo. No, ma quello è vero, era un voto politico. Però si pente di aver fatto quel voto o no? Beh, se io non avessi fatto quel voto sarei andati a casa col governo. Tanto se era andati a casa uguale. Questo è vero, un altro tema, ma non per responsabilità mia, mettiamola così. Sì. Però non si pente di aver votato la nipote di Mubarak, no, quello no. Lei dice si è vergognata del PDL, anche di questo si sarà vergognata, di aver votato per motivi politici la nipote di Mubarak o no? Sicuramente ci sono delle cose che mi hanno... E questo, di questo si è vergognata? Insomma. Ma guardi, ripeto, non mi vergogno di aver tenuto in piedi il governo di centrodestra, non poi avrei preferito non dover votare sul merito di una cosa del genere, ma è un altro tema, insomma. Ma sono più gravi le bugie di Giannino o quelle di Berlusconi? Chi mente di più secondo lei? Ma guarda, è una domanda del cazzo, lo so. Ma meno male, va. Però le bugie. Me l'ho solo pensato. Però io me lo dico da solo. Me lo dico da solo. Grazie. Però spesso lo sa che dalle domande del cazzo, come ho detto io, nascono delle cose interessanti. Allora, sì, lo so. No, lo so, però la domanda del cazzo, cioè, è più bugiardo Berlusconi o Gianni? È più grave? Cioè, però questo è vero perché non molti hanno fatto. Risponderò a questa domanda. Perché non risponderò? Ma molti, guardi, che hanno fatto oggi su Twitter, eccetera, impazza questa cosa. Ma come vi indignate per le bugie di Giannino mentre Berlusconi ha una vita che dice no? Ma guardi, io non mi indigno francamente per niente, nel senso che però dire bugie sui titoli di studio, se ne prende le proprie responsabilità. D'accordo, dire bugie sui titoli di studio è grave o no? Beh, certo che voglio dire, io non lo farei, ecco, dopodiché ripeto. Vabbè, chiudiamo Giannino, chiudiamo sulla vicenda Giannino. Se ne prende la sua responsabilità, mi pare che se ne stia prendendo ampiamente la responsabilità. Benissimo. Senta, Berlusconi sul palco, lei come avrebbe reagito a quella frase? Lei quante volte viene? Io avrei risposto male, francamente. Male, Penso che una donna debba sempre rispondere male. Ma si è stupita della... cioè, uno schiaffo gliel'avrebbe dato a Berlusconi? No, non era necessario. Guardi, ho imparato che quando in queste situazioni, poiché mi è capitato a volte, non con Berlusconi, devo dire la verità. Ah sì, l'hanno molestata, tra virgolette. No, succede. Gli uomini pensino, soprattutto gli uomini di potere, pensino di poter fare delle battute così. Io ho anche imparato che se tu ti rivolti subito, bruscamente. Male, esatto, la questione finisce lì. Dunque è colpa anche un po' di lei, che non è di quella ragazza, di quella signora che non ha risposto adeguatamente. Cioè, ha trovato un po'... Colpa è difficile dirlo, perché è vero che insomma sono sempre situazioni che magari se uno non se le aspetta diventa difficile. Poi, insomma, è stato un cafone o no? È stato un cafone o no? Me lo dica, è stato un cafone. Beh, sicuramente erano delle battute, insomma, sopra i ring. Da cafoni, su, da cafoni. Non l'avrei fatte. Maleducato. Come tutti sanno, non amo, diciamo, questo sai che mi dispiacerebbe, abbiamo concluso, se la Meloni non entra in Parlamento, questo lo dico, lo so che non lo dovrei dire, forse la par condicio, ma mi dispiacerebbe un po', devo dire. Che fa se non entra in Parlamento? Venga a lavorare con voi. Ah, questo lo dice sempre. Ma che no, fa? Allora no, non è un mestiere, voglio fare la radio. Che mestiere c'ha? Sono giornalista professionista, vabbè, ho capito, sì, vabbè, sono giornalista. È una vita che non lo fa. Ah, in vecchia Alleanza Nazionale erano tutti giornalisti, pure Gasparri è giornalista, tutti i giornalisti. Sì, Todos Caballeros. Dobbiamo quindi chiudere, grazie. Che è meglio che torna a fare con Fiorello la babysitter. Ah, dai, ma no, ma Fiorello, se però ci ha parlato con Fiorello? Ci ho parlato, sì. Ma la voto o no? La voto o no? No, ma non gliel'ho chiesto, non lo so, sono affari ciao, tuoi. Ciao, ciao. Ciao. Ciao. Io la combatto da ore, punge e poi fugge da me, e cerca il posto migliore per fare un pasto da re. Dove sei, ma dove sei? Lasciami dormire. Dove sei, ma dove sei? Ti potrei schiacciare. Io ho concluso il mio intervento rivolgendomi agli studenti, dicendo: ricordate sempre quello che a me disse il giorno iniziale del mio master a Chicago, quello che poi divenne Nobel, Bob Barrow. Cioè diceva: la distinzione è che chi ha un titolo di studio inferiore può al massimo rubare sulle carrozze dei treni ai viaggiatori, chi ha un master può rubare un'intera ferrovia. Forse per qualcuno siamo infami, caro Parenzo, dove sei? Sono alla 7 nel mio banco di lavoro. Ad analizzare... Fai la tua solita slecchinata a Urbano Cairo adesso, al nuovo entrante. Questo è importante. Vai. Importante. Vai, mettiamo i violini, su, violini per Parenzo che fa la sua slecchinata al nuovo padrone della 7, cioè al suo nuovo padrone, a uno dei suoi nuovi padroni. Dunque, Urbano Cairo è una persona dalle doti eccellenti, ha dimostrato con le sue riviste, col suo gruppo editoriale, di saper fare l'imprenditore. Siamo sicuri noi, cioè io, ma insomma, mi trovare maiestatis, come diceva Telma, siamo sicuri che saprà rilanciare ancora questa grande azienda per farla diventare il polo televisivo di riferimento, cosa che già in parte è nella galassia televisiva. Berlusconiano Cairo? Guardi, non faccia polemica con me su questo, non voglio polemiche, domanda stupida, domanda che non mi interessa. No, ma dovresti dire no, voi, ma quale Berlusconi quotidiano? No, voi del Fatto Quotidiano su questo avete costruito una campagna dalla quale io mi dissocio. Ma chi voi del Fatto, chi? Lei del Fatto Quotidiano mi sta facendo questa domanda tra bocchetto apposta per farmi cadere, e io qua chiudo, arrivederci. Ma lei non è Cairo. Arrivederci, come? È Parenzo. No, ma ho già preso le difese, signor Cairo. Ma non faccio il credito. No, a proposito, dimmi. Un messaggio per la signora Mirante. Sì. Al posto di Giannino, sì, che si dimette da presidente, sì, metteranno il busto di Almirante, che hanno ritrovato a fare per fermare il declino. Ah, l'hanno trovato poi il busto? L'hanno trovato lì, era lì appunto coperto dal master e dalle due lauree. Sì. Lo hanno preso e lo hanno candideranno loro, probabilmente. Candideranno il busto verrà candidato. Bersani, la lettera IMU un imbroglio, almeno Lauro dava i pacchi di pasta. Almeno si dice che Lauro portasse dei pacchi di pasta, qui siamo all'imbroglio, questa cosa qui è un imbroglio. Perché l'imbroglio? Perché è un imbroglio, perché si camuffa per una specie di lettera delle agenzie delle entrate, un facsimile di restituzione, siamo arrivati anche a questo. È arrivata la lettera a mio cognato! Parenzo. A tuo cognato. A mio cognato, un sacco di italiani in realtà. È arrivata la lettera di Berlusconi incartata, restituzione dell'IVU, sembra una lettera ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, un paraculo il signor Berlusconi, eh. Qualcuno dice addirittura, un avvocato del Partito Democratico, così è incappato in almeno 3 fattispecie criminose. Vasco. No, va, perché sono delle fattispecie. Allora, a mio cognato è arrivata questa lettera, non so se posso dire il nome, lo posso dire, no, non lo diciamo, è meglio. Mio cognato è arrivata questa lettera, che recita in questo modo: la restituzione avverrà a sua scelta, è molto lunga la lettera, prendo le parti principali. La restituzione avverrà a sua scelta attraverso un bonifico sul suo conto corrente oppure a lei personalmente agli sportelli delle poste. L'amministrazione finanziaria le invierà una lettera firmata dal nuovo ministro dell'economia e dello sviluppo, cioè dal sottoscritto. Senti, cioè dal sottoscritto, ma punto esclamativo. Vabbè, se vincono le elezioni. Per la prima volta ricevendo una lettera dall'amministrazione finanziaria, lei non avrà nulla da temere, ma potrà finalmente sorridere perché le porterà una buona notizia. Vabbè, la lettera le comunicherà infatti il suo diritto a ricevere il rimborso e l'ammontare che le spetta. Poi naturalmente c'è la chiosa, è ovvio che per evitare questo disastro serve il suo aiuto. Ogni voto conta, ogni voto è determinante, nulla deve essere disperso o sciupato. Il voto dato ai vari Fini, Casini, Monti, c'è pure la filippica politica, è un voto regalato alla sinistra, sul cui carro hanno già deciso di salire, condividendo il programma di non abrogare l'IMU ma anche di imporre a tutti ulteriori tasse. Ci serve davvero il suo aiuto, quello di votarci e di farci votare dai suoi parenti, dai suoi amici, dai suoi conoscenti. Noi siamo davvero l'unica difesa contro l'oppressione fiscale, l'oppressione giudiziaria, l'oppressione burocratica. Grazie per l'attenzione, grazie per la fiducia che vorrà darci. Un saluto cordialissimo, suo Silvio Berlusconi. Beh, siamo alla genialità, Ma è un genio, anzi, poteva fare di più, poteva mettere anche un facsimile di assegno, un facsimile di assegno, poteva già dare gli assegni, perché poteva chiedere al ragionier Spinelli di come no, poi tanto dice, poi quando va il governo se li fa ridare dallo Stato, però poteva già mettere proprio un assegno, no? Di quelli pagati. Beh, questo francamente, dai. Perché? Titoli del TG3, titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3. Di Bersani. Monti contro il Cavaliere, compra i voti. Se gli italiani lo confermano, il problema sono loro, non lui. Bersani premier da testare, ma la Merkel teme la sinistra. Buferra per la lettera inviata da Berlusconi a milioni di elettori sulla restituzione dell'IMU. E lui replica, mi denunciano, non sanno più a cosa attaccarsi. Bersani, toglieremo il ticket sulle visite specialistiche. Manifestazione in piazza Palermo con Renzi e Crocetta. D'Alema ospite del TG3. Dopo le polemiche sui titoli di studio, Oscar Giannino si dimette dalla presidenza di Fare, il suo movimento, ma resta comunque candidato premier. La crisi peggiora, avverte Confindustria, economia fragile, in 2 mesi persi quasi 200.000 posti di lavoro, anno nero per industria ed edilizia. La Grecia si è fermata per lo sciopero generale contro la politica di austerità, migliaia nelle piazze e dietro gli slogan storie drammatiche di persone. Il portavoce del Vaticano annuncia l'imminente pubblicazione di un atto del Papa che potrebbe anticipare il conclave per la scelta del successore. Beh, danzano come zanzare, queste ombre sulla strada, e cadono le ceneri della città. E allora i sindacati hanno la loro responsabilità. I grandi sindacati CISL, UIL, CGIL hanno la responsabilità che hanno avuto i partiti nella disintegrazione del lavoro in questo paese. E buttano le briciole dai balconi e lasciano cacare i cani. Ma io ho detto, ma l'avete il commercialista in Danimarca? Mi ha detto, what is commercialist? What is... No, Abona, stai zitto. Ma fatti conoscere, dai. Abona. Is a very wonderful lady. Is a compliment, Italian lady. Is gentleman, Italian gentleman. Abona. Noi abbiamo il commercialista, loro non sanno neanche che cos'è. Ma perché io devo andare da un commercialista? Ma chi me l'ha detto? Perché se sbaglia poi lui pago io sempre. Ma perché loro non ce l'hanno? Perché non ce l'hanno? Pensare a casa. Ma c'ha ragione lui, rivolta fiscale contro queste cose. Ma cosa hai trasformato? Questo è Radio Casaleggio, no? Ma che Radio Casaleggio? Non è più Radio 24, è Radio Casaleggio. Hai trasformato questa cosa in un megafono di quel guitto che ma quale megafono? Ma che stai dicendo? Anzi, ogni giorno fai sentire una fregnaccia, ma te l'ha spiegato anche il professor Boldrino. Ma professor Boldrino, ma di che stiamo parlando? Che è quello del movimento di cui sopra. Dai, su, aspetta un attimo, aspetta. Aspetta un secondo, aspetta un secondo. Ti faccio capire la mia. Sono panzane, tu sei diventato un casaleggio con i capelli più brutti che Cruciani. No, più brutti, perché più brutti? Scusa. Perché sono più belli quelli suoi da Branduardi che non i tuoi, tutti attaccati, insomma, voglio dire. No, tutti spettinati. Tra quel cespuglio che c'hai in testa, signor Casaleccio, quel cespuglio di stronzate che hai in testa, perché per dirlo, perché una volta, se si può dire, poi lo è un genio. Ma che genio, l'hanno intervistato sulle a Piazza Pulita chiedendogli delle ricette dell'economia a Bonfonchiacco. Aspetta un attimo, per farti capire. Quando lo sa che cazzo dire, dice va bene, eolico. Ma c'è tempo. Dici come eolico, scusi. Stai tranquillo. Allora, per farti capire, una radio sì, ho capito, una radio 5 stelle. Per farti capire quanto sono indipendente, adesso ti mando in onda. Meno male che non voto nel Lazio, poi non so nemmeno cosa voto, per cui. Però, insomma, avrei difficoltà a mandare in Parlamento, anche se poi non conta un cazzo il Parlamento, diciamocela tutta. Non conta nulla, zero totale. Allora, potrebbe arrivare in Parlamento, anzi arriverà sicuramente in Parlamento questa candidata del 5 Stelle, capolista nel Lazio, credo, che si chiama Daga. Daga, senti, ti prego. Ciao, sono Federica Daga, ho 36 anni e vivo a Roma da 2 anni e mezzo. Questa che vedete è una fontanella di acqua pubblica. La fontanella. Andiamo più in giù e spostiamoci. La fontanella di acqua pubblica. Aspetta. Questa è una pianta di aloe arborescence. È una delle varie varietà di aloe. Le sue caratteristiche sono che è una pianta antiossidante e anticancerogena. Ma chi se ne frega? Antiossidante! Ma che bisogna fare? Bisogna fumarsela questa pianta. Aspetta. Più in là abbiamo messo su una pianta di limoni. Con 3 di quei frutti ci possiamo fare un detersivo per i piatti e per la lavastoviglie che non inquina. Faccio vedere un altro aggeggino, che è questo qui. Questa si chiama Mooncup, è la coppetta della luna. Come e aiuta chiama? Le donne a raggiungere l'obiettivo dei rifiuti zero. La coppetta della luna. Piccole cosine per dire che il cambio del proprio stile di vita è una delle prime cose che dobbiamo fare se vogliamo realmente cambiare il mondo. La coppetta della luna. Di che movimento è questo? È la capolista del 5 Stelle nel Lazio. Appunto. La coppetta della luna. La coppetta della luna. Annaffiare le piante. Ma dai. Le piante per fare il che era il lavastoviglie lì il ma dai su Beppi, sì bravo, se metti una pianta nella lavastoviglie ti si blocca, tu devi chiamare l'idraulico, poi ti costa una sassata. Ma dai, 800240024 Massimo da Roma, buonasera Massimo. C'è gente che mi scrive, buonasera, c'è gente Cruciani. Che mi scrive, lei schifa Giannino, schifa il movimento, non avete capito nulla. Massimo, dica, non capisci un cazzo. Ecco, no, ma vero. Loro non capiscono, non io stavolta. Tu. Massimo, dica. Tu, dimmi un po'. Ma dica lei, ha chiamato lei, mica io. Sì. Massimo. Quindi? Vai. Massimo. Ma sta parlando con qualcun altro? Massimo. Vai. Massimo. Sì. Ma che è, un tassista? Che cos'è? Che devo fare questo? Ma che sta facendo? Ah, adesso forma giù a Roma. Ma sta trafficando in droga, che sta facendo? Una spacciatore, che fa? Fammi sentire. Magari c'è una notizia di reato, succede. Aspetta un attimo. Allora io quello mio lo scarico lì a Sconcello. Poi che devo fare? È un tassista. Alla Parmalat. Viva sempre i tassisti. Insomma, aggancio questo e me ne posso andare verso Roma. Devo scaricare la tua. Devo scaricare? Da forma di Roma, diretto là. Ah, un camionista, un camionista. Pronto! Massimo, ma che stava facendo? Stavo in comunicazione con il principale. Vabbè, ho capito, ma la prende con comodo. Massimo? Sì, buonasera. Ma è con comodo, se la prenda comoda. No, scusi, è che mi hanno proprio il viaggio. Ma lei che fa? Che fa lei? Che fa lei? Scusi, Massimo. Il camionista, che fa? Un camionista adesso, certo. Camionista, certo, vabbè, camionista. Adesso si mette... Come si dice? Si squalificato ormai, ormai faccio il camionista. Ma lo sai chi sarà il più grande ministro dell'economia mai nominato, mai attivo? Quello che non, che ancora non c'è. Berlusconi al Ministero dell'Economia. Beh, certo, lo dice, va dicendolo di televisione in televisione. Senti. Dica almeno un ministro sorprendente del suo futuro governo. Il sottoscritto Silvio Berlusconi, ministro dell'economia e dello sviluppo. Questo è l'unico punto, cioè, certo. Il più bravo ministro mai a quel posto nella storia della Repubblica. Beh, dopo Tremonti. No, sono più bravo io. Tremonti è intelligentissimo, ha molte conoscenze in materia, però... Lei insomma sta certe, tra Tremonti e Visco? No, Visco è una iattura assoluta. Monti, Berlusconi compra i voti. Altro che voto di scambio, promette, vediamo queste lettere sull'IMU. Quando io qualche giorno fa ho detto ma questo farà dei tentativi di comprare il voto degli italiani con i soldi dello Stato, beh, non pensavo che avrebbe... Lei sapeva che avrebbe mandato questa lettera? No, non pensavo che avrebbe che incarnato così alla lettera la cosa che temevo avrebbe fatto e che sta facendo. È un Monti praticamente impazzito, dice che Berlusconi compra voti, ma caro Monti, è campagna elettorale, spregiudicata, ma è semplicemente campagna elettorale. È la campagna elettorale di Berlusconi, che diciamo manda le lettere quasi con gli assegni, come diceva Parenzo. È campagna elettorale. Diciamo che anche il professor Monti... Poi dice anche che la Merkel non spera nel PD al governo. La Merkel non spera nel PD al governo. Ma di che stiamo parlando? Non spera nel PD al governo. È impazzito. Poi dice, se gli italiani votano ancora Berlusconi, il problema sono gli italiani, non lui. Cioè, una roba come Berlusconi che dava del coglione a quelli che non lo votavano, ti ricordi, no? Dai, su. Siamo qui, 800 24 00 24. Massimo da Roma, allora, che stava dicendo? Pronto, Cruciani, buonasera. Allora? Comunque Berlusconi sarebbe un buon ministro dell'economia, Cruciani. Ecco. Come no? Se farebbe funzionare lo Stato come le sue aziende, in un paese da fallimentare, e l'azienda di Berlusconi... Vabbè, poi andiamo avanti. Comunque no, niente, ce l'avevo sempre con te, io non lo sai che ce l'ho con te. Ma che ne so io ascolto tanta gente. Allora? Sono quello di Roma, il rappresentante di zona, quello che come l'ex commerciante di cocaina, dai, me ne ricordi il caso Marazzo. Beh, l'ex commerciante di cocaina, non è che io conosco gli ex Marazzo, commercianti di cocaina, Massimo, abbia pazienza. Come fa a ascoltare certe cose? Vabbè, lei è l'ex commerciante di cocaina. È l'unico, come si dice? Io poi non ho capito bene, scusi Massimo, lei faceva è stato pure in galera perché spacciava. No, io ero rappresentante di zona. Ma rappresentante di zona di che? Cioè, aveva la zona in cui spacciava cocaina? Roma e dintorni, certo. Roma, ma oggi che fa lei? Oggi che fa? Io prendevo soltanto nota, domanda, offerta, come si dice? Ma lei che fa oggi di mestiere? Ero il sensale, come si chiama Roma? Di mestiere, che fa oggi? L'autista, il camionista. Ah, il camionista. Beh, porterà la droga pure col camion, non è che... O no? Sì, certo, prima di mettermi in viaggio sempre. Allora, stia fermo un attimo che abbiamo un ospite. Stia fermo lì, ma voglio far ascoltare questo. Dario Fo, tornati appena finita la guerra, dal comizio di ieri di Beppe Grillo. Lui si sente, dal punto di vista proprio emozionale, con il cuore, con la partecipazione... Come se fossimo tornati dalla guerra, nell'immediato dopoguerra, maestro! Mi sembra di essere tornati indietro di molti anni, alla fine della guerra, l'ultima guerra mondiale. Ci fu una festa come questa e c'era tanta gente come siete voi, felici, pieni di gioia. Non dico speranza, la speranza lasciamola a parte. Di certezza che si sarebbe rovesciato tutto, non ci siamo riusciti. Fatelo voi, per favore! Beh, ecco noi Giuliano Ferrara, buonasera! Buonasera, come va? Bene, bene. Ma ha sentito, caro Giuliano, hai sentito questo Dario Fo ieri da Grillo? Sì, un insopportabile trombone. Devo dire che quando combinano il premio Nobel è come una malattia praticamente. Ti inoculano nel cervello, nelle corde vocali, nel registro della voce, eccetera. quell'elemento tenorile, capito, di trombonismo al cielo, cioè, molto insincero, molto brutto. Poi voglio dire, Fo dà sempre querela quando si dice che è stato nella Repubblica Sociale Italiana. Però è vero, no? Sì, vabbè, è una questione sulla quale lui ha fatto sempre battaglie, diciamo, di ricostruzione della sua biografia a colpi di carta bollata. Comunque stiano le cose, a me non interessa. Ma scusa, ma è vero o non è vero quella colpa della... Non lo so, sai, sono quelle cose complicate, per cui c'è un passato difficile da raccontare. A chi bisogna, Parenzo, a chi bisogna chiedere? Bisogna chiedere ad Albertazzi, chiedere ad Albertazzi... Che non nega di essere stato un repubblichino. No, Albertazzi, anzi, Albertazzi è una persona seria, un amico volte. Albertazzi è una persona seria, non va a 80 anni nelle piazze a cercare di raccogliere al grido di non mollare, capito, il consenso conformista di grandi platee di giovani dato a una maschera, diciamo, di carnevale politico. Come ma quelli che votano Grillo sono coglioni? Ma coglioni, insomma, sono, come si può dire, i seguaci di una maschera. Diciamo che sono, beh sì, sono un po' coglioni. Sono sì, un po' coglioni, non posso negarlo. Ma non lo dico... Alla Berlusconi maniera, diciamo. No, non lo dico con antipatia, con... insomma, mi sembra una coglionata, via, è una cosa... quando sento Grillo, quell'elemento di violenza che c'è, di piccola marcetta su Roma, arriviamo, arrendetevi, abbiamo circondato il palazzo, vi apriremo come una scatola di tonno, e poi dice sarà un bagno di sangue, e poi dice tu chi sei, sei della Rai, vai giù, scendi giù dal palco, e gli fa una cazziata mostruosa, ecco, tutta quella roba lì, così polmonare, così muscolare, così... Una roba alla fascista? Sì, un po' feroce, non fascista, è quello che dice Bersani, non voglio ripercorrere le strade di Bersani, dello smacchiatore di giaguari. No, ma dico, tutta quella roba lì però mi fa rimpiangere Flaminio Piccoli. Addirittura, sì, vorrei ma il ritorno non della Prima Repubblica, ma della prima parte della Prima Repubblica, con Fanfani, con Moro Vivo, anche perché, insomma, Dario Fo, a parte la storia della RSI, che è una vexata questio anche giudiziaria, invece, insomma, negli anni 70 fu uno spregevole fiancheggiatore culturale, psicologico e politico delle Brigate Rosse. Addirittura. Uno che attaccava i magistrati che poi venivano rapiti, era uno che, insomma, ha illustrato Milano, che sicuramente gli avrà dato, oltre al Nobel, un Ambrogino d'oro. Vabbè, quello sicuro. Di un'orrenda commedia, Morte accidentale di un anarchico, in cui la pietà per il povero Pinelli si trasformava in feroce accusa nei confronti del commissario Calabresi, una cosa della quale non ha mai, diciamo, fatto ammenda, che non ha mai filtrato come dramma della sua vita personale, come è successo per esempio a Sofri e a tanti altri. Però, è uno di quelli che sta sempre al lato e tromboneggia e la guerra. Ma quale guerra? Certo, non stiamo nella seconda guerra, ma è un modo, cioè, sono tutti strumenti retorici, anche Grillo quando parla di rivoluzione, di gol, di spazzare. Sei un sostenitore, diglielo. Non sono un sostenitore, però mi piace questa. Hai trasformato questa radio in radio casaleggio, questo hai fatto. Ma dovrebbero cacciarti a pedate nel sedere. Ma no, perché un Grillo al giorno, un comizio di Grillo, ma come comicità, e non solo come comicità, come carica libertaria, rivoluzionaria, toglie un pensiero di torno. Io penso questo, un pezzetto di Grillo, anche Giuliano. Anche Giuliano lo ascolta volentieri. Sì, no, Grillo è sublime dal punto di vista della maschera, è sublime perché c'ha questo corpaccione immenso, è molto, c'ha questo capello, diciamo, un po' barocco francese. Ma scusa, Giuliano, quando parla dei commercialisti e dice cazzo, ci siamo rotti i coglioni di questi commercialisti tra noi e lo Stato, lo facesse la dichiarazione dei redditi, la facesse lo Stato, ma non c'ha ragione lui, dai, su, diciamo. In questo fa assolutamente, diciamo, in questo sarà sempre battuto da Berlusconi, che invece di fare la dichiarazione dei redditi restituisce direttamente le tasse quella... con una lettera personale indirizzata a ciascun contribuente. Quindi, e lì ti voglio, ma l'hai ricevuta tu? No, io non l'ho ricevuta, purtroppo. Ma guarda che eccezionale, un colpo di genio pazzesco. Assolutamente, è una cosa di propaganda al limite della truffa, però, però molto, molto, molto divertente, insomma, nel senso che fa capire molto bene, guardate che io dico sul serio, e devo dire la verità, lì, la Bolì, sì, molte cose che ha detto che avrebbe fatto le ha fatte. Ma tu, a Napoli andò a fare il Consiglio dei Ministri. Vabbè, Consiglio dei Ministri, che ce l'ho a fare? I rifiuti, cioè, no, che tolse i rifiuti, dai, su. No, la gente può crederci, questo sto dicendo. Secondo me non ci sono le condizioni politiche né perché lui vinca le elezioni, né perché faccia il Presidente del Consiglio, né perché nel caso restituisca l'ICI. Ecco. Ma questo è un mio parere personale. Lo sai che secondo me nel segreto dell'urna Giuliano Ferrara, direttore del Foglio, però secondo me domenica voterà per Mario Monti. Io no, mi ricordo, mi tengo da conto, mi tenga da conto. No, ma che c'entra questo? Io do un voto non razionale. Cioè un voto da pazzo. Ho dato tanti razionali nella mia vita, questa volta è un voto non razionale. Da matto. Voto da matto per una persona amica di cui non condivido la politica e il modo in cui sta spendendo da 3 mesi in questa campagna elettorale la sua immagine. Ma dopo che fa secondo te Berlusconi? Scompare? Dopo diventerà una persona seria e cercherà di dare una mano per risolvere i problemi. Dici. Fondo poi alla fine anche spaccando tutto, dividendo il paese, creando questa specie di retorica pro Berlusconi e contro Berlusconi, quello ha fatto Berlusconi. Però tu dici che resterà lì tranquillo. Ma non fa il Masaniello, non lo vedo a 80 anni che sta ancora lì a cercare di distruggere. Ma guardala adesso che sta facendo l'inferno, fa l'inferno. Vabbè, ma certo, facendo l'inferno perché... Per portare in Parlamento una truppa di suoi, per salvare un po' di cose, avrà... è una cosa un po'... Ma no, lui è istintivo, è di pancia, lui dice mi hanno cacciato. Ha riportato tutti in Parlamento, i Gasparri, le cose, dai, su, doveva fare il Masaniello sul serio. Il Masaniello sul serio era spazzare via tutto e portare un drappello di persone sconosciute e più come Grillo, mettersi lì alla testa di un Forza Italia rinnovato con quattro persone e tutti nuovi, questa era la cosa nuova, non con il... Però lui è interessante perché è insieme un Grillo, un Daniello, un rivoluzionario, una maschera, però anche così, insomma, un politico doroteo, che è la cosa che gli ha consentito poi di fare non... Ma tu ci credi al fatto che lui comunque... Una grande coalizione nuova, il centrodestra, che ha determinato nel bene e nel male la ristrutturazione della politica italiana da 20 anni. Senti, ma tu ci credi, Giuliano, che lui alla fine un po' è fissato con questa cosa della roba, cioè di voler conservare a tutti i costi, cioè è fissato che stando in Parlamento può proteggere le sue aziende? Scusate, ma... Può proteggere, pensa di poter... Era un signore con tanta di quella roba e con tante di quelle disponibilità. Beh, oddio. Che avrebbe avuto tutta la sua bella convenienza, come si dice... Convenienza? A fare un bel negoziato, una bella trattativa. Ma tu lo sai imitare? Lo sai imitare tu? Beh no, non è che lo so imitare, ma insomma la sua bella convenienza a fare una trattativa e a salvarsi senza entrare in politica. Senti un attimo, ma adesso i soldi ne ha un po' meno e ne avete un po' di più voi, scusami questa cosa qui, perché la signora Veronica è diventata ricca e dunque anche il Foglio. No, purtroppo Veronica non è più l'editrice del Foglio, che ha come editore non più la moglie di Berlusconi, ma il fratello di Berlusconi. Come il fratello editore, di Berlusconi? Ma da quando? Il Foglio è una compagine raffinata di diverse fette di torta, e una fetta di torta. Ma comunque il Foglio è in pari da 20 anni, quindi no, ma non sto dicendo adesso, lo sto facendo, non me ne frega niente. No, per dire, dico, non ha quasi importanza. No, però Veronica, se fosse stata 100.000, siamo una cooperativa, 100.000 euro al giorno sarebbe stato buono. Sarebbe stato buono. Scusa, lui dice di essere diventato povero, questa 100.000, lo ripete continuamente, 100.000 euro al giorno. Ma queste sono le cause matrimoniali, che sono sempre una cosa... Lo è complicato, ci sono 3 figli di mezzo, non so come giudicarla. Certo, detta così, mia moglie spero che si sveglie, che mi preoccupo che sia svegliata a mezzogiorno, perché sennò come fa a spendere 100.000 euro al giorno? ma lui è sempre spiritoso, no? Ha detto che Tremonti si vuole far fare, siccome ha un fratello ministro, il ministro della sanità. Sì. Così mette le supposte. Le supposte, quella è stata bellissima. Sì. Senti un attimo, ma sta cosa di Giannino, adesso tu lo so che se ha lavorato con te, non ne vuoi. Ma insomma, che raccontasse qualche balla, diciamoci la verità, cioè un po' si sapeva. No, la scheda che viene fuori da ciò che è stato rivelato è quella di una forma di mitomania. Ecco, e naturalmente la cosa grave non è in sé quello, perché tutto sommato. Se proprio devo fare una confessione in pubblico, io che non sono laureato, quando i camerieri del ristorante nel quale amavo andare, La Campana, mi dicevano professore si accomodi, svenivo, capisci? Cioè, quindi, nel senso, quella mitomania lì che ti danno di professore perché pensano che porti gli occhiali, che leggi i giornali e che sei una persona di qualità superiore, così come ti danno dottori i parcheggiatori. Sì, sì. Quella mitomania lì è una cosa scusabile, un male italiano. Però? La cosa è che lui ha fatto una campagna... Tutta basata su questa roba qua. Tutta basata sulla menzogna. Sulla meritocrazia. Allora si ride, capisci? E lui è stato abbastanza corretto, mi pare, da capirlo, e da prendere le misure necessarie. Non ho capito se questa storia che si dimette da presidente ma resta candidato premier. Ma quella è una cosa ridicola, perché tra l'altro non si può cambiare nulla da questa roba qua di candidato premier, perché non è che appunto, insomma, comunque la sostanza è che è finita quella roba là, è finita, dai. È andata a capolinea quella roba lì per un errore di vanità, di follia, perché non aveva nessun senso, non aveva nessun bisogno. È un uomo molto intelligente, conosce le cose di cui parla. Ma è vero che questa mitomania tu l'avevi toccata anche con mano su altri punti? No, in che senso? No, senso questo raccontare... Ma no, era sempre un uomo bizzarro, ma non... per esempio, mi ricordo che all'ora dell'attentato alle Due Torri, per un paio d'anni, lui si alzava e cantava l'inno americano in redazione. Insomma, questa era una cosa... Per due anni, non l'ho capito. Sì, per due o tre anni dopo... Perché lui era da noi, era redattore del Foglio. Era sì, molto come bravo, no, come no. Ma sta cosa che non mangia mai... Ecco, poi non so, appunto, è uno che non lo vedi mai mangiare, dice che... cioè, diceva delle cose che sembravano anche un po' il prodotto di una fantasia sfrenata. Però non ho mai pensato che fosse un mitomane. Però nemmeno adesso. Dico che è in corso in casi di vanità a sfondo mitomaniaco. Vanità a sfondo. Senso, incompatibili con... Incompatibili non tanto con una onorata carriera professionale giornalistica, quanto con una carriera repubblicana all'insegna del promuoviamo la meritocrazia. Comunque, quello no. Io sono anche preoccupato, devo dirti la verità, perché oggettivamente per come è fatta l'Italia, ma non solo l'Italia, adesso sarà anche complicato... Certo. Capito, il dopo sarà più complicato. Ma non è complicato, l'Italia è un paese di perdonatori, io sono il primo perdonatore, tutti siamo perdonatori, nel giro di due settimane tutti saranno dimenticati questa storia di Giannino e diciamo basta. Ricomincerà. Vabbè, si può dire che vai a votare Berlusconi con naso durato o no? No, assolutamente no, l'ho anche scritto, mi pare. No, con naso durato, col coso. No, mi vergogno un po', diciamo, di questa mia propensione. Ah, ecco, ti vergogni un po'. No, mi vergogno un po' di questa mia propensione a separarmi dalla mia ragione politica. Ah, ecco. Però, insomma, la vita è fatta anche Ma che voti perché? Per riconoscenza, per che cosa? Non ho capito, perché no, per amicizia. Amicizia. Cioè, ma da quant'è che non vi sentite? Da una vita, no? Pensani, penso a una persona seria che non è tuo amico, che non è mio amico, verso la quale non ho particolari motivi di amicizia. Ma governerebbe meglio Bersani, però, di Berlusconi, diciamo la verità. Beh, sarebbe più ordinato, certo. Se penso a Monti, penso a una persona addirittura stellarmente diversa da me, con qualche elemento in comune, diciamo così, di tipo superficiale, gusti personali, musica. Passeggiate, cioè, Monti presidente del Consiglio è una cosa più augurabile. Monti presidente del Consiglio è più augurabile di Berlusconi presidente del Consiglio. Ma insomma, adesso questo lasciamo che siano gli italiani a decidere. Per te, non fare il diplomatico. Gli italiani votano con la pancia e altri con la testa, e altri con l'amicizia. Ma non per l'IMU, però. Se si azzarda a restituirmi l'IMU nel caso vinca le elezioni, glielo rimando infiocchettato. E perché? Perché è una balla, una bugia orrenda alla quale anche voi contribuite con la vostra trasmissione populista grigliana. Perché? Chiamami Parenzo. Perché? Perché l'IMU hanno fatto i calcoli lì via Ceriani e 278 è la media di pagamento dell'IMU. Un terzo della platea dei contribuenti che potrebbero pagarla è esente. Dunque stai dicendo che non è ci vero che una sordi detrazioni e quindi l'IMU è una grossa tassa sacrosanta che insiste duramente sul ceto medio che se la può permettere, va bene? Il quale molto spesso è anche composto di evasori fiscali. E dunque se la prendano questa IMU e stiano zitti. Tassa giusta, dicevo. Una tassa giusta. Ma non giusta, sacrosanta. Sacrosanta. Dove dovevano metterne di IMU? Tre. Come chiedo? Ma tu quanto hai pagato di IMU? Scusa. Quanto hai pagato di IMU? Io non me lo ricordo, ma... Ma che te frega a te, d'altro? Ma lì, io ho una casa al Testaccio di 170 metri quadrati. Una in campagna? Non è di categoria... Ma lo devi sapere, chi è che ti tiene i conti? Perché non hai parioli, infatti le tubature fanno clic clic, goccio... Chi ti tiene i conti? Chi tiene i conti? Il mio commercialista, come dice Grillo. Come dice Grillo, appunto. Vedi che pure tu alla fine ti incazzi, però, o no? Ma certo che mi incazzo pure io, ma che vuol dire? E allora? Ma uno si incazza, ma anche si scazza. Sono 3 giorni che frequento l'ospedale Forlanini, una meraviglia. Non devi fare niente, chiedi di mia moglie doveva fare una piccola operazione a un occhio, chiedi, cioè, di farlo attraverso l'elogio dell'ospedale pubblico, ti trattano in modo democratico, fai delle file, è efficiente, è bello, sei a Roma, c'è il sole, ma che cosa dobbiamo sempre lamentarci in Italia che tutto va male, che tutto è drammatico, che tutto è terribile, balle! Eccoci, 800 24 00 24, abbiamo ancora un'ora, caro Parenzo, preparati. Abbiamo ancora un'ora, così per un'ora farai ascoltare il ciarpame di Grillo. No, l'ultima, dopo, l'ultima stronzata, no, che si può dire, ultima. No, dopo che parliamo. Ha detto Grillo, no, ma perché lo devi sapere che tu che gli fai tanta pubblicità, l'altro giorno all'intervista gli ho detto, scusi, ma lei come pensa di risolvere i temi dell'economia? Dell'economia, bisogna mettere l'eolico, il fotovoltaico. Ma quale fotovoltaico? Questo qui gli fai una domanda, ti risponde eolico, la rete, il fotovoltaico, vaffanculo! Cioè tu dai spazio, perché questa qui ormai però siccome è radio. Siccome sei partito con queste imitazioni, adesso collegamento con il direttore del giornale Alessandro Sallusti, che ci darà il titolo di domani del giornale. Sallusti, buonasera. Buonasera, sono qui con Daniela Santanchè, abbiamo... Ma perché con la Santanchè? Abbiamo appena un po' rovistato nella vita privata di questo Oscar Giannino, di questo clown Giannino. E sì, il titolo. Il titolo è Giannino, virgola, pedofilo di merda, anche abbiamo messo un po' così... Ma che c'entra? Scusi, pedofilo? I suoi gatti sono tutti froci come Occhiello, abbiamo messo i gatti di Giannino sono froci. Vabbè, allora, in esclusiva il titolo del giornale domani mattina, Giannino, pedofilo, giusto? Le notizie che abbiamo trovato, rovistando un po' in giro, ci sembrava giusto per i lettori, di questa notizia. Va bene, grazie, saluti, ragazzi. Ha dei problemi anche il gatto, capisci? Giuliano Ferrara è con noi. Allora, Giuliano, ma oggi c'è questa storia dei gay, di questi due candidati di Fratelli d'Italia, una cosa pazzesca. Cioè, una cosa, hanno fatto uno spot omofobo, nozze gay, non votate. Vabbè, ma quelli sui soldi malati, dai. Si sa benissimo, i maschi e le femmine hanno una componente, i maschi femminili, le femmine maschili, e sono tutti un po' froci. E allora si agitano da morire nella loro vita perché non vogliono riconoscere che l'omosessualità è una qualunque variante culturale, psicologica, eccetera. E, insomma, che in genere la si supera, si diventa adulti, si fanno figli, si mette in piedi un matrimonio, una famiglia. Come si supera, scusa? E quando non la si supera, il problema è che adesso vogliono lo stesso mettere in piedi un matrimonio. Ma che vuol dire non si supera? Non è che è una malattia che bisogna superare, Giuliano, scusa. No, ma io ho detto, è una variante, ti ripeto, culturale, psicologica, erotica, di sensibilità, eccetera. Sì. Beh, insomma, no, non è che bisogna superarla, no, però... Per esempio i greci, ma anche la gioventù in terra islamica, eccetera. A loro piace che si giochi con questa cosa un po', e poi dopo però si trova una bella matrona e si fa una bella famigliola. Vabbè, no? Ma non è che sia obbligatorio. Non è che sia obbligatorio, no, ma insomma è meglio. Io dico sempre, quello dicevo in televisione, l'omosessualità la consiglio a tutti, ma non è tanto naturale. Come non è naturale? Cioè, tu dici che... È carina, è interessante, simpatica, però... ha dei grandi precedenti, ha degli splendidi, diciamo, elementi di insomma, c'ha delle radici robuste nella storia. Ecco, però insomma, non è che sia proprio la cosa più giusta da fare nella vita. No, è innaturale, dice, una cosa contro natura. Beh, direi di sì, è un pochino sì. Non vi sembra che voi? No, siete sicuri? Noi siamo froci alla grande, proprio. No, appunto, secondo me Parenzo è d'accordo con me, perché è troppo simpatico. No, noi siamo tutti un po' filo, tutte gay, a noi ci piace. Uno può essere per la gay culture, questa è un'altra cosa. Allora io lì lo combatto, è un combattimento culturale molto semplice. No, ma io sono orgogliosamente la gay culture è l'idea che nel mondo si deve affermare una critica da parte di una minoranza militante attiva di tipo omosessuale del modo di vita e dei valori della famiglia eterosessuale. Allora io questo lo capisco benissimo, perché è una lotta culturale. Come, vabbè, ma non è che le due cose sono in contraddizione, no? Cioè l'affermarsi di una famiglia, della possibilità di una famiglia omosessuale con la persistenza di una famiglia eterosessuale, perché bisogna vedere in contrapposizione? No, la famiglia eterosessuale mi fa ridere. Io ho letto un bellissimo libro del critico musicale Alex Ross sulla musica nel XX secolo, e mi dico, ammazza quanto è bravo questo, divertente, Shostakovich, le cose, eccetera. Poi alla fine vedo, ringrazio molto il professore Tal dei Tali, eccetera, ringrazio molto mio marito, senza cui questo libro non sarebbe mai nato. Vabbè, da ridere. Vabbè, perché ti viene da ridere? Cioè? Mi viene da ridere perché ho 60 anni e tutta la vita ho letto, ringrazio molto mia moglie, che sapeva battere molto bene a macchina, mi ha dato una mano. Ma i tempi cambiano, sì, i tempi cambiano. Ma lo so che i tempi cambiano, a me fanno ridere i tempi nuovi. Cioè non ti piace l'idea? C'è l'idea, sì, certo, per carità. Una poi quelli lì sono dei malati, non farei mai. Ma certo, per me l'ostentazione del macismo. Ma scusa, direttore, ma Pasolini non faceva mica cose contro natura. Vabbè, non Pasolini è che propagandava la famiglia omosessuale adesso. Ma io ho sempre detto che questo mondo si diventa furioso sulla questione della pedofilia. Mettiamo sotto processo Don Gelmini, sì, chiediamo al conclave di escludere coloro che non hanno abbastanza combattuto il fenomeno della pedofilia nel clero, posto che sia veramente quello che è stato descritto dai media di tutto il mondo. Benissimo. E poi Pasolini è un santo italiano, San Pierpaolo Pasolini. Mi sembra che mica era pedofilo, che era pedofilo. Era pedofilo, gli piacevano i ragazzi, insomma, senza grande differenza tra i 18enni e i 17enni. Tu dici che anche a qualche prete gli piaceranno i ragazzi, è normale, può succedere. Sì, no, peccato, la mela fu mangiata, il peccato originale c'è stato, la carne, la concupiscenza sono tentazioni bestiali. Cioè, non mi dirai che la pedofilia è collegata secondo te all'omosessualità? Come hai detto? Non mi dirai che la pedofilia è in qualche modo collegata all'omosessualità? A tutto, anche all'eterosessualità, è una cosa, no, non è specificamente collegata all'omosessualità. Naturalmente, insomma, al frocio piacciono più i ragazzi che i vecchi signori, ma questo è normale, anche all'eterosessuale, maschio piacciono più le ragazze giovani, no? Sì, però. No, dipende, io ho un amico a cui piace solo le racche vecchie, soprattutto. Ma questo è meraviglioso, presentamelo, voglio andarci a cena. Adoro gli eccentrici. Però noi che siamo, c'è uno che come me è a favore del matrimonio e anche dell'adozione. Cioè, per esempio, l'adozione secondo te è una cosa proprio orribile, tremenda, una cosa agghiacciante l'adozione. Guarda, io faccio sempre una distinzione, Giuseppe. Se io penso a una singola famiglia, madre e madre, padre e padre, che adottano dei figli e li crescono e nasce una esperienza particolare, individuale, penso che possa starci benissimo quella che Vendola chiamerebbe una narrazione bellissima. Perché può andare bene, può essere che l'educazione porti al massimo, a uno sviluppo massimo dell'affettività, però, del senso di protezione, della guida spirituale, può venire fuori una famiglia bellissima, ma il modello di quella famiglia mi sembra assolutamente épouvantable, direbbero i francesi, cioè spaventevole. Come modello, come schema. Poi se tu mi dici quei singoli e quei figli, che gli vuoi fare? Perché li vuoi negare? Ma non no. li voglio negare, per carità. Però, tu però dici, il modello di riferimento è spaventoso. Mi sembra spaventevole. Preferisco come modello di riferimento quello del mulino bianco. Allora, tra mezz'ora ci sarà la risposta della Meloni e di Crosetto con un video in identico stile ai due veneti. Vabbè, in questo caso si cerca di... Crosetto è gay, no? No, non è gay. Ma come no? Perché dici che è gay? Me l'ha detto lui. Ma no, dai. Ma sì, me l'ha detto quando stava lì al governo. Ma no, veramente stai dicendo? È gay, certo. No, vabbè, ma questa è una cosa clamorosa. Ma non è clamorosa. Che c'entra che c'ha un figlio, Parenzo? Che c'entra? Parenzo, date le risposte. Se non ricordo male, me l'ha detto lui. Chiedete a Parenzo, anche Parenzo lo saprà. Beh, sì, no, io questo frequenta quel mondo, per cui lo saprà. Però... Ma non mi risulta così maschio, robusto, virile, sembra. Ma maschio, robusto. È l'apparenza inganna. È alto, è alto. Parenzo inganna. Crosetto gay, adesso verifichiamo. Crosetto gay è strano. Verifichiamo. Voteresti mai per Ingroia, Giuliano, poi ti lascio? Ma ne neanche sotto tortura. Cioè, una cosa cioè proprio la cosa più lontana da te. No, presente il waterboarding? No. Cioè, nemmeno mi mettono quell'asciugamano lì che c'è nel film sulla presa di Obama, la caccia Obama, sulla faccia e ci versano l'acqua, cioè, no. Peggio di Grillo, peggio di Grillo. Sì, che c'è, il Grillo è una grande maschera, un grande oratore, Ingroia è uno così, un addormentato, uno che... Sono una cosa. Ma è più pericoloso, è più pericoloso. Uno che aggiunge allo spirito manettaro la noia è veramente bestiale. Zanzara! C'è una zanzara. Siamo qui 800240024 con Crosetto che ha detto: vi denuncio e mi compro un alloggio. Mi ha appena chiamato mio nipote per dirmi che avete detto che sono gay. No, caro Crosetto, non abbiamo detto noi che sei gay. L'ha detto signor Ferrara. Scherzando, evidentemente. Ma scherzando non sembrava, Ma non seminar zizzania tra il direttore, tra Bretelle Rosse e l'immenso Crosetto. Paolo da Roma 80024. C'era Massimo. Scusami, ma vogliamo dirla tutta definitivamente? Ma su che cosa? Su che cosa? Vogliamo dirla tutta? Ma su che? No, voglio dire su questa questione, su Monti, perché non abbiamo bastonato abbastanza che tira in ballo la signora Merkel. Ah sì, come no? Merkel che non spera nel Partito Democratico al governo, ma una roba pazzesca. Ma dai, vogliamo dirla tutta? Questo signore che ha appoggiato il Loden al chiodo e si è messo e si è messo quelle cose, sembra fa una campagna elettorale da panca bestia ormai, proprio. Vabbè, adesso non c'entra niente panca bestia. Sì, ma perché ormai non c'è più, cioè, Merkel non vuole il PD al governo, il signor Monti, ma non gli dici nulla, sei pronto come a fare TikTok a Oscar Giannino e Gaudio, panca bestia, e poi di fronte a una... Ovviamente scherzava Crosetto sulla denuncia. Ma certo. Marco Pannella è con noi, buonasera Pannella, grandi notizie, soprattutto mi sembra che notizie anche su Giannino. Pannella, buonasera. Noi radicali rilanciamo con l'occasione di Oscar una grande battaglia che è l'abolizione del valore legale del titolo Bordin, balsami in acqua, scusa Bordin, del titolo di studio. Perché diciamo, con le nostre associazioni radicali non c'è pace senza giustizia. Nessuno tocchi Caino, ma Caino si tocchi. L'associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica. Ogni volta deve fare tutto l'elenco. Chiedi a Emma dell'acqua. Poi l'associazione Tibet libero subito. Ma che c'entra? I diritti dei Falun Gong. No Taliban, no Pakistan. Allora, le associazioni radicali. Dopo tutto questo, hai capito, devo ripetere. No, no. Le grandi battaglie, il divorzio, l'aborto, Oscar Giannino, l'abolizione. Noi diciamo Giannino libero, diciamo. Da libero da che? Libero di dire quello che gli pare, perché è radicale nel diritto. Vabbè. Emma, cazzo, l'acqua. Faccio un'altra lista, se no non ho l'acqua. Va bene, grazie Pannella. Massimo, lei spaccia... Buonasera. Ma lei spacciava la cocaina, Massimo, che ci deve dire? Ma proprio basta con me, fate rimprovere accuse di ciò. Ma scusa, ma io posso parlare con uno che spacciava la cocaina? Ma che spacciavo niente, è Peveruccio, Cruciani. Ma tu l'hai detto, ma l'hai detto tu. Io prendevi le ordinazioni. Non spacciavo niente. Ma rappresentano, i rappresentanti sono gente seria. Io sono una persona seria, infatti. Ma scusi, Massimo. Non ho conosciuto nella zona di Cazzali come rappresentante serio. Ma rappresentante della cocaina, la ditta per cui lavoravo, la ditta per cui lavoravo, che importava questo prodotto tanto richiesto in Italia e nel mondo, sì, li arrestarono tutti nel 2002. Ma ho capito, ma i rappresentanti, io sono nato, non rappresentavo più, potevo rappresentare più nessuno, mi sono dovuto mettere a fare no, ma vista, d'accordo, scusi signor Massimo, però abbia pazienza, ma io non sono stato neanche incriminato, perché no, per culo, per culo non è stato incriminato, perché non l'hanno pizzicato, no, poi è riconosciuto la persona per bene, perché io non ho fatto niente. Non ha fatto niente, ha spacciato, prendeva le ordinazioni dai trafficanti di droga. Abbia pazienza, certo. Chi commercia questo? Come, ma scusi, Massimo, però poi c'è chi fa la distribuzione, no? Ma lei io non lo fa tramite, diciamo. No? Ho capito, faceva l'intermediario tra gli spacciatori e quelli che portavano la droga in Italia. Beh, certo, non è certo. Certo, è certo. Io cazzo a penna c'avevo. Però, sì, d'accordo, Massimo. Poi che faceva le consegne. D'accordo, lei faceva parte, diciamo, del giro, però. Io facevo parte, erano retribuito a percentuale, che ecco per dire la Parmalat ha fatto quello che ha fatto il rappresentante, mica incriminato. No, però scusi, adesso abbia pazienza, Massimo. No, però si calmi un attimo. Io quando lei dice io facevo il rappresentante, no, scusi un attimo, si fermi un attimo. Lei dice facevo il rappresentante, no, Massimo, tu dicevi facevo il rappresentante. Però scusa, Parenzo, io sono nato in una famiglia non di rappresentanti, anche per un periodo, insomma, di persone del commercio, per cui li conosco, sono gente. Che non è che facevano i rappresentanti con i prodotti che faceva di cui sopra la cocaina, ha capito? È un prodotto come un altro, tanto richiesto. Beh, insomma, sì, è come un altro, come è prodotto come un altro, signor Massimo. Come? Vabbè, lei è che piena, mi vuole dire? Il suo paese è piena di cocaina, l'Italia. Ma sì, lo so, è piena di cocaina, certo che è piena di cocaina, lo sappiamo che è piena di cocaina. Che vuol dire? Ma lei se la fa? Se l'è mai fatta la cocaina, signor Massimo? Io, vabbè, sì, ma certo, logicamente. Certo, ma logicamente non è logico. Ma non è tutto certo. Tutto certo. Ma dice, guardi, lei cosa fa? Ma niente, ho stuprato quattro persone. Ma l'ha fatto così, certo. Non è che so, però comunque l'ho usata, dai. L'ha usata, ma anche adesso, qualche botta se la fa, Massimo. Adesso, a volte capita, dentro l'anno succede che a volte un sabato, una festa, magari. Sabato a botta se la fa, a botta, eh. Non vi fate nulla, voi che siete all'ascolto, non vi fate niente, c'è la morte lì, la cocaina porta la morte. Non date retta a questo Massimo che ogni tanto si fa le botte il sabato sera. Vabbè, Massimo, che mi voleva dire, scusi? Questo può fare un programma a parte e parlare di droga. Parliamo. Adesso parliamo. Dobbiamo parlare del signor Giannino. E che vuole lei da Giannino? Lei, signor Massimo, non che è vuole? Che ha molto da insegnare, diciamo. Che vuole dire? E buonasera a Parenzo, perché Parenzo l'ho conosciuto. Vabbè, Massimo, poco, mi dica Massimo. No, dove mi ha conosciuto? Io dico, te, in un tuo programma, in un programma della Zanzara, tu abbracciassi Giannino in un modo... Certo, a tratta, ma ancora lo abbraccio. Una signora ti accusò a te, cioè allora tu ragioni come Giannino. E tu dissi in quell'occasione, dicevi... Non voglio sapere neanche che ha detto Giannino, perché se abbraccio veramente, perché quello che dice Giannino per me va benissimo, perché io conosco Giannino e invece adesso stai... Ma io mica perché dico, cioè Giannino ha fatto quello che ha fatto, scusi un attimo. Ma tu perché sei così contro adesso? Sembra quasi ma non sono contro, cioè, Massimo, non sono affatto contro. Non siete più amici con Giannino, com'è? Ma non è quello il punto, la questione è molto semplice, l'ho spiegata in questi giorni in mille salse, lo ripeto ancora una volta, a parte che secondo me con gli amici, se Parenzo mi dicesse, se io scoprissi anzi, che nel curriculum che ha mandato a Radio 24, non so, Marco, anzi sicuramente non l'ha mandato, vabbè, comunque in una cosa che mi ha mandato, c'era scritto laureato in giurisprudenza, oppure, cioè, e poi scopro che non è vero, lo prenderei a calci nel culo, mi incazzerei come una belva. Bisogna essere molto più severi con gli amici e le persone che si conoscono e con i conoscenti piuttosto che con gli altri. Sì, no, io ma penso così. Ma tu sei stato comunque rispetto a cose gravissime. Ma io faccio il giornalista, non è che posso essere morbido, allora sì, va bene la laurea, le cose. Ma io non do la soluzione. Io non voglio la soluzione. Io racconto quello che accade, non solo racconto, dico qualcosa in più, caro Massimo, e dopo devo dare la linea al traffico. Cioè, la cosa è molto semplice: se uno fa la campagna elettorale sul merito. Se uno fa la campagna elettorale sugli altri bugiardi, Berlusconi bugiardo, Bersani bugiardo, Monti non ne parliamo. Poi non puoi mentire sulle due lauree, sul master e chissà su quante altre cose. Eccoci qua, 800 24 00 24, Riccardo da Pescara, buonasera Riccardo. Sono a pisciare adesso, no? Eh? Vabbè, niente, nulla. Come, che sta facendo? Sta pisciando? Stavo pisciando, sì. È un'ora. Vabbè Riccardo, ma perché? Da voi questa è una casa aperta, trasparente, anche Parenzo ogni tanto va in bagno, tira la catenella, vabbè non c'è più. Poi ma è riprendiamo. Cascato dentro il bagno, sì. Ma che ne so, cioè. Paolo da Roma, buonasera, ancora grandi sorprese, fino alle 21 non ci mollate. Vi aspetta veramente una grande cosa fino alle 21, non ci mollate. Guarda anch'io alle 21.05 al cinema. Beh, ma chi se ne frega, adesso scusa. Vado a provare i biglietti. No, ma scusa, ma non ho capito, ma cosa vuoi che me ne importi a me se tu alle 21.05 vai al cinema? Non dovresti farlo, però come al solito te ne sbatti i coglioni. Paolo da Roma, sì, come al solito, vabbè, starai lì trafelato col telefonino davanti al cinema, vabbè. Eccetera, eccetera. No, fai un piccolo coso davanti al cinema, lavora, fai un piccolo sondaggio tra quelli che vanno al cinema per chi votano, dopo me lo fai, Paolo da Roma. Pronto? Lavora, lavorare sempre, continuamente, Paolo. Buonasera. Dica. Salve, io volevo intervenire su Giannino perché è una cosa assurda. Cos'è la cosa assurda? Che uno si immagina, l'ultima cosa che immaginavo in vita mia dopo, insomma, che l'ho seguito per parecchio, lo seguo ancora. Sì. Però a un certo punto uno, la cosa più assurda che accade è quella che è accaduta. E quindi comunque uno rimane così spiazzato perché dice, ma non è possibile che, insomma, l'ultima cosa a cui avrei mai pensato era questa, insomma, che lui comunque, poi quando ho visto quel filmato, che il primo dicembre fondamentalmente, anche la tempistica sì. è strana, nel senso che era in piena campagna elettorale, comunque sia, lui era già molto avanti, insomma, col progetto, c'era di lì a pochi giorni, insomma, la convention, eccetera, dire, quando l'ho visto dire proprio a video quella cosa del master, sono rimasto proprio scioccato. Poi una cosa che ho notato è comunque la difesa, comunque strenua da parte di tantissime persone che come se non volessero vedere, insomma, questa cosa. Io che comunque sia continuo a votare magari fare, eccetera, eccetera, però a un certo punto uno dice ma il senso di tutta questa cosa dov'è? Cioè perché l'ha fatto? Quindi io a un certo punto ho pensato anche, boh, ma c'è qualche linea di non ho capito, scusi, non ho capito bene. Non lo so, guardi, i tratti psicologici non posso parlare. Infatti non mi sfugge proprio il perché l'ha fatto, cioè che senso ha avuto. Non posso entrare, non si può entrare nella mente delle persone, cosa vogliamo fare? Questo è certo, però è proprio una cosa che è inspiegabile per me, perché comunque tutto andava benissimo, eccetera, poi comunque sia lui il primo dicembre ha ripreso con questa cosa qui, poi l'ha ripetuta, eccetera, quando insomma non c'era bisogno, forse. Abbia pazienza, che ci sia bisogno o no, io restano delle cose dette, scritte, mai corrette, appunto. Che prima vengono attribuite a internet, come se internet fosse una mano oscura che governa internet, vabbè. Eccetera. Ma molti, infatti, eccetera. Se uscivano con questa storia, c'è stato il dossieraggio. Ma quale dossieraggio? Ma di quale dossieraggio stiamo parlando? Perché le cose sono state dette da lui. Ma io non riesco a capire perché poi uno deve continuare in una difesa che non ha senso. Infatti, cioè, ma sì, ma forse perché si vuole c'è salvare. C'è anche l'imbarazzo, il dolore, la rabbia di questa cosa. Comunque, esatto. E questo è umano e straordinariamente comprensibile. Noi dovremmo chiederci solo una cosa. Oscar Giannino, che tutti noi abbiamo apprezzato come editorialista di importanti quotidiani, che abbiamo ascoltato a Radio 24 con le sue intemerate, di cui possiamo condividere o meno il programma, lo riteniamo una persona competente, sì o no? Questa oggi deve essere certo l'unica che il tuo benaltrismo quando si tratta di persone che conosci e no. La tua sì guarda, quanto si tratta di persone che conosci, di persone vicine a te o che comunque che apprezzi, che stimi, ti trasformi completamente. Io per fortuna devo dire, è anche un mio limite ma forse anche un mio pregio, quando non me ne frega niente di questo aspetto qua, hai capito? Non me ne importa niente, io guardo questi fatti qua. Ed è molto più grave per me, molto più grave, aver saputo. Io ti ho fatto una domanda. Ma che sia competente, ho capito, ma se uno per 5 anni, come oggi ha documentato da Cospia, per 5 anni ha raccontato cazzate a destra e a manca sulla sua laurea e sul suo master, è credibile anche per il resto, sì o no? Cazzo! Dai, Riccardo da Pescara, su, Riccardo da Pescara. Pronto? La gente si chiede questo, su, noi dobbiamo interpretare anche questo che, quello che chiede la gente. La gente si domanda oggi se uno per 5 anni, come è documentato, ha raccontato balle. Sì, ha raccontato delle balle sulla sua laurea e sul suo master. Ha raccontato delle balle sul suo master e sulle sue laurea. Gravissime. Benissimo, se uno ha fatto queste cose, ovviamente non è che deve essere messo sul patibolo, perché ci sono cose molto molto più gravi che avvengono nella politica. Per carità, nessuno lo mette in dubbio. Però uno che si presenta facendo la campagna elettorale che sta facendo è credibile per il resto dopo aver raccontato? Tu sai benissimo che in un paese che ogni tanto citi, in America si sarebbe dimesso, in Germania, una cosa del genere, ma proprio non si passa nemmeno dal via, non è che resta candidato non si passa nemmeno dal via, dunque non è che puoi applicare i criteri degli Stati Uniti o della Germania quando te pare con Berlusconi e con Verdini, e quando si tratta di Giannino, siccome lo conosci, no per cui non mi dire stronzate, dai, su. Faccio una difesa d'ufficio, non hai capito, non ne faccio, dico che chi aveva intenzione di votare, cioè ormai non è più interessante se è competente, forse non hai capito ormai com'è la situazione, la realtà è questa, non è nemmeno più interessante se è competente o no, non è importante, ma io lo dico con rammarico, con dolore, purtroppo è ormai un elemento secondario. Riccardo da Pescara, buonasera, fammi sentire Riccardo che è più interessante. Sì, salve dottor Cruciani, senta, volevo dirle, le dico la verità, ho chiamato per dirle insomma che erano infame per come si stava comportando. No, ma dillo. No, ma adesso diciamo che accetto la giustificazione che ha dato. Effettivamente ha ragione lei, non si tratta più di, insomma, bisogna vedere se è credibile o non è credibile. Poi mi faccio una domanda. Ma scusi poi... un attimo, adesso io non so, stasera probabilmente è un salotto un po' più, come dire, benevolo, no? È una situazione un po' più benevola. Però uno potrebbe dire, in qualsiasi momento, in un confronto con una persona, se uno fa politico o fa il giornalista o fa il commentatore, uno si alza a dire: no, scusi, ma lei era quello che le lauree. Sì, infatti ha ragione lei, io penso che abbia ragione lei. Lo dico con rammarico, con dolore, però è così, cioè è la realtà. Sì, anche a me è dispiaciuto sinceramente, perché è la realtà, ma questa poi non è Radio 9, Bubù, quindi... non è Radio Maria, non è Radio certo, Pranzo Radio di Gale, 24, no, ma è io... Radio la Zanzara, è una trasmissione un po' diversa, in cui non è che uno sta qui a farci noi complimenti, ah no, sì, ma no, ma noi siamo così, sì, infatti, c'è una ferocia di fondo, c'è una ferocia di fondo che fa parte di questa trasmissione, ma che fa parte anche del mio carattere, ma anche di quello di David. Poi ognuno di noi ha un tratto umano, come evidente, però non sì, è che possiamo tirarci indietro di fronte a queste cose qui, perché mi no, sentirei ma male. Ma io non discuto di questo. No, è vero, io però mi chiedo un'altra cosa, cioè come fanno queste persone senza master, senza lauree, cioè ad arrivare fino a Radio 24 e condurre una trasmissione ogni mattina alle 9 che parla di economia? Cioè lei dice che dovevamo controllare? Ma a parte il controllo, ma uno, insomma, quando viene assunto, no? Il datore di lavoro controlla. A parte che non è stato mai assunto, ma vabbè, anche... ma se ha un contratto comunque qualcosa... No, ha, ma non è così, non è così, lei si vabbè, sbaglia. Viene pagato da Radio 24. Sì, no, ma ho capito quello che dice lei. Ma guardi che non è così, perché non... Sì, non è così, ma come ci si arriva comunque a questi ma livelli? Lasci perdere, Giannino è un gran professionista da questo punto di vista, che c'entra? Ha fatto una sua carriera, punto. Ma non è che uno presenta il curriculum, a parte che non l'avrà presentato, sì, ma non è che sì, nessuno no, controlla, d'accordo. Non è che il Sole 24 Ore doveva controllare... Però, insomma, io pensavo che fosse... autorevole, oltre che per le conoscenze che ha, no, ma rimane anche autorevole. Per i titoli di studio che insomma, uno può il punto, vantare, è, insomma, il punto è anche questo, quando si dice che con i titoli di studio, altrimenti non ci sarebbe bisogno di millantarli, no? Quando uno dice i titoli di studio non contano nulla e non ho mai avuto accesso non ho mai avuto dei vantaggi economici da questo punto di vista, non ho mai avuto, è vero che non ho mai avuto accesso ad una carica pubblica, però i vantaggi economici ci sono stati, perché se uno va certo. A vedere tutte le conferenze che uno fa e tutte le... Beh, ma che c'entra? Ma quello lo chiamavano perché lo consideravano e lo considerano competente in materia. Ma che c'entra? Ma prendevano il curriculum e lo elencavano oppure lo presentavano col curriculum. Ma vallo a dire agli studenti che lui ha fatto lezione dicendo se non sono incazzati per questa cosa qui. Vallo a dire a quegli studenti lì. No, questo è un altro discorso e questo sicuramente sono incazzati. Ma io dico un'altra cosa. Cioè, le competenze... Giuliano Ferrara, ricordato poco fa, dice io non sono laureato, però nessuno può dire che Giuliano Ferrara non è competente. Benedetto Croce non era laureato, Don Benedetto, no? Benedetto ma Croce che c'entra? Non ma non diceva di essere laureato, ma perché dici delle stupidaggini? Ma non c'è dubbio, ma dico il problema... Vabbè, chiamiamo no, Telese che mi aiuta, chiama Telese, va. Lei ronza un po' di qua, poi ronza un po' di là, e tu lo sai che prima o poi potrà... Ancora Grillo su Grillo, caro Parezzo, Grillo su Grillo... Beh. Ma infatti, ma mettiti una parrucca a questo punto in testa come Casaleggio, gira ma per la va, città dicendo su. Che vuoi l'energia rinnovabile, ma che ci risolvono i problemi dell'economia. Ma che c'entra? Fammi sentire questa cosa sui sindacati, di nuovo, che mi piace moltissimo, sui sindacati. I sindacati. E allora i sindacati hanno la loro responsabilità. I grandi sindacati, CISL, UIL, CGIL, hanno la responsabilità che hanno avuto i partiti nella disintegrazione del lavoro in questo paese. Un grillo al giorno toglie le preoccupazioni di torno, ma hai ragione tu. Oggi Monti che dice la Merkel non spera nel Partito Democratico al governo, è una roba veramente assurda, signor Monti. Ma come si permette? Telese, dove sei? Sono qui in diretta dal Pigneto. Ma che stai a fare al Pigneto, alla libreria? Vabbè. Sono venuto a salutare mio padre, a parlare con un amico. Voi non chiamate, voi state lì con i massimi sistemi. Ma che massimi sistemi? Dai, su, ti stavo chiamando, poi mi è sfuggito di mente. Ma che bello, vedi, questa cosa che te lese col padre nella libreria è una cosa meravigliosa. Bisogna dare spazio a queste storie, ad esempio, anziché dire sempre che storie, ma storie. Avete linciato Giannino, siete l'organo. No, lui, formico. Casaleggio Cruciani ha linciato Giannino. Casaleggio Cruciani. Ma quale Casaleggio, ecco, Cruciani? Io non me la tu sei Casaleggio. Neanche perché fra noi tre è il più amico di Oscar, Giuseppe, è stato il più feroce, e ora vedo che su Twitter, sui social media, tutte gli rimproverano, persino quello di restare candidato premier, che come tutti sanno non può essere evitato. Vabbè, ho capito, non può essere evitato formalmente, ma è evidente che... cioè, no, ma dai, su, Luca, tu sei stato sempre severissimo nei confronti di tutti, adesso qual è il problema? Perché sei improvvisamente buono con Giannino? Bravo. No, non sono buono con Giannino, dico che una cosa, cioè, studio sempre gli autoinganni collettivi o cerco di capirli. Allora, la prima, gli autoinganni collettivi, Giannino, no, ha costruito tutto su una campagna da moralizzatore, esatto. Ora lui, allora, deve pagare più di tutti. Ma no, più di allora, tutti? Questo non è vero, secondo me non è la percezione giusta di quello che è stato Giannino. Giannino era già un personaggio, se volete, iperrealistico, persino surreale. I suoi vestiti, ma di che stai... erano una maschera, ma parli come era Vendola, un grande personaggio, e lui quel personaggio l'ho costruito mettendoci pure il curriculum che gli serviva per dire quello che doveva dire. Quindi meglio Giannino degli attori non professionisti che fanno i politici, molto meglio Giannino del comico che fa il politico, Beppe Grillo, molto meglio Giannino che si dimette degli ipocriti che non si sono dimessi per niente al mondo. Ma, ma sei impazzito o no? Ma sei impazzito o no? Cioè, tu stai dicendo che è meglio Giannino di Grillo perché non si capisce, no, perché. No, perché si è dimesso Giannino. Ma si è dimesso fare, da che? Ma da cosa? Ma di che parliamo? Ha detto che non andrà in Parlamento. Ma che va, deve ma su, più. Dai. Ha ma... detto che lascerà il posto. Ma che deve fare? Ma certo, ha detto che non c'ha. Ha fatto tutto quello che doveva. Che ma deve? Ha taroccato i curriculum con due lauree. Con due lauree, cioè, un master, tutti... Luca. Ma e poi c'è un'altra cosa. Nessuno ha fatto un titolo di riavvaggia sulle menzogne di Fini, sulle menzogne di Berlusconi. Ma come no? Titoli ma come sparati, no? Ma come no, no? Molto ridotte. Ma come l'Oscar no? Delle balle che titolano Libero e Giornale con il sospetto del conflitto di interessi che purtroppo non ci lascerà mai, perché lo fanno perché dai, notizia, su. Ma c'è il sospetto del conflitto di interessi. Questi titoli di prima pagina bugiardo, non li ha fatti neanche l'Unità su Berlusconi. Ma dai, su, ma che c'entra? Ma è la campagna elettorale a 5 giorni dalle elezioni, dai, su. Giannino, ragione, erano i voti determinanti per vincere o perdere. E che c'è il complotto? È stato usato politicamente. Il no, complotto? No, nessun complotto, però c'è un'occasione. Vabbè, che ti stupisci? Che ma il oggi che il... doveva fare di più? Io voglio capire da Cruciani che cosa doveva fare di più oggi Giannino. Ma nulla! La ma... pistola o la cicuta? Abbandonare la campagna questo. Elettorale. Abbandonare la campagna elettorale è finita domani, oggi è finita la campagna elettorale. E vabbè, infatti non doveva fare niente di più, ma mi sembra ormai una pantomima. E allora, ecco, allora siccome ha iniziato dicendomi che non aveva fatto nulla, ma sì, ma dimesso da che? Dalla presidenza del movimento? Ma te credo, ma che vuol dire? Ma dimettersi? No, ma perché ha detto che lascerà il seggio se eletto, e siccome io credo che questa parola la rispetterà, perché può essere, può avere inventato dei dettagli del curriculum, ma questa parola penso la rispetterà, credo che sia una cosa che non... Vabbè, adesso chiamiamo una persona, adesso il Corriere Telese, perché bisogna scorticarla, al volo, chiamiamo una persona al volo. Intanto Pasquale da Milano, Pasquale da Milano. Eccomi. Dica. Presente. Vada. Ah, che devo dire, io prenderei, farei una riflessione su questo discorso. Cioè? La meritocrazia, il valore del titolo di studio. Qual è il valore del titolo di studio? Se uno è capace di parlare, di conoscere, andare a fondo sulle problematiche, conoscere a fondo la problematica dell'economia. Ma c'è bisogno veramente del titolo di studio? Mettiamolo in discussione questo titolo di studio. Ma questo è un altro discorso. Ma certo, Telese non è laureato, Parenzo non è laureato, purtroppo ha a che fare con delle bestie, che devo fare? Cioè, ma sto scherzando, Telese non è laureato, mi sembra. Luca, non sei laureato tu, no? Si può essere ma certo, ma figurati, titolo di studio, diamo all'università la sua giusta ma è dimensione. Stato lui stesso a non metterlo in discussione. Un attimo solo, pronto? Si sente male, purtroppo Si sente male. Pronto? Non risponde stasera. Non risponde stasera. Vabbè, richiamiamo tra poco. Allora, Pasquale, il punto fondamentale è questo. È stato lui stesso a mettere in discussione il discorso che fa lei? Cioè, perché millantando i suoi titoli di studio, evidentemente questi titoli di studio sembravano fondamentali. Guardi, Cruciani, io non faccio il discorso. Ma scusa, poi Telese, no, Telese, scusa. Il discorso in generale. Sì, ma ho capito, volevo chiedere a Telese, ma non ti colpisce il fatto, come scrive Dago Spia, che in realtà molte delle conferenze dove lui veniva invitato si leggeva il suo curriculum e forse veniva invitato anche per quei suoi titoli? Non ti colpisce il fatto che degli studenti universitari... Due cose che sono importanti di fronte al problema complesso. Primo, mi dispiace per il nostro ascoltatore, Giannino ha sicuramente inventato e sicuramente non doveva inventare questo curriculum. Secondo, Giannino ha fatto un errore proprio gravissimo, perché lui non era invitato per i suoi presunti titoli di studio e per il suo master a Chicago. Anche per questo, non anche era invitato per anche era per invitato questo era uno polemista pazzesco, perché era, vabbè, attento. Io l'ho invitato centinaia di volte, tu l'hai invitato centinaia di volte, noi del ma sì, di Chicago non sapevamo niente, né ce ne fregava nulla. No, ma hai ragione tu su questo, non ce ne stava la sua testa, la sua brillantezza. Quindi lui ha messo in mora la sua intelligenza senza motivo. Si è voluto costruire una maschera per fronteggiare i Tremonti. Ma quale maschera? Ma dai, su, ma questa è un'interpretazione tua. Una maschera tua, che andava dal suo vestito ai suoi diplomi. Quindi se uno lo usa, lo legge con strumenti convenzionali... Ma che è una specie di cagliostro del giornalismo? Non ho capito. Era una grandissima... Ha impersonato una maschera che era necessaria. Ma quale era necessaria? Ma che è necessario, è necessario dire che uno ha due lauree e un master? Dai, su, non diciamo stupidaggini, dai. Giorgio da Milano... Nessuno di noi lo invitava per il suo master. Ma quello è vero. Giorgio da Milano, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Un paio di considerazioni. Il comandante che sta portando la nave sugli scogli dimostra che non è in grado di governarla, e cedendo il timone prima del disastro mi pare che dia conferma anche di ciò in modo inconfutabile. Berlusconi stava portando l'Italia nel baratro e ha ceduto il comando a Monti pur avendo una schiacciante maggioranza in Parlamento. Vabbè, e poi? Come può riproporsi in modo credibile? Riguardo poi a Giannino, volevo dire ma Giorgio, cosa. Ma non è che sta facendo il compitino lei? Come può riproporsi in modo credibile? Ho capito, tanto si ripropone e piglierà il 25% magari, o anche il 30%. No, è che ci sono pochi secondi, quindi volevo dire ma le no, cose. Ma chi l'ha detto? Lei parli, non si preoccupi. Poi perfetto. Non è che deve fare il compitino, dico, come se fosse una, la lettura di una, di una cosa già scritta, altrimenti ci addormentiamo tutti. Certo. Poi? No, riguardo Giannino, volevo dire che trovo stupefacente che chi è sotto processo per prostituzione minorile dica che è una persona poco per bene, e riguardo chi ha millantato un master mi sembra che non c'entra un cazzo, lei lo sa che non c'entra un cazzo, sì, quello che sta dicendo non c'entra nulla, zero spaccato, zero, sì, no, totale, zero. Si è permesso di dire questo, ma nessuno dice il contrario quando uno fa, ragazzi, perché mi dovete far ripetere, sembra che ce l'ho con Giannino, io non ce l'ho con Giannino, mi infervoro quando ci sono delle belle polemiche. E dunque Luca, togliamo dal campo il fatto che io ce l'ho con Giannino, figuriamoci se no, ce l'ho con Giannino. Non l'ho mai detto. Io dico, paga se uno fa la campagna elettorale, sulle bugie degli altri, se uno fa la campagna elettorale sulle bugie degli altri, caro Giorgio, caro Luca Terese e caro David Parenzo, quando dici poi una bugia ti si inchiappettano, ma è così, è normale che sia così, è normale che sia così ed è anche giusto che sia così. Ho visto su di lui il più grande plotone d'esecuzione. Ma quale plotone? Ma dov'è? Ma dov'è sto plotone d'esecuzione? Dov'è? Dov'è? Quello che poteva fare l'ha fatto, cioè si è dimesso e ha detto. Vabbè, che ma quello è una cosa di stasera. Ma dov'è il plotone d'esecuzione? Questa parola d'onore. Ma la domanda è Giannino. Sì, Giannino. Sì. Veniva chiamato per. Ma no, siamo d'accordo. No. Il suo peccato di vanità ha ucciso il Giannino, la maschera geniale che aveva costruito, che era una maschera necessaria in ma non momento, è solo peccato di vanità, ma non è solo peccato di vanità. In radio mi ha chiamato uno che ha fatto i banchetti per la lista Giannino, che dice io vorrei che lui restasse, cioè oggi questo ascoltatore e tanti altri. Ma dove? Radio dove? Che erano alla riunione all'hotel di Esquilino, dove gli dicevano resta, e lui si è dimesso, ha detto che se ne andrà, quindi chapeau, ma capito? Che chapeau, non si bastona chi perde, ma che c'entra, ma non sì, si bastona chi perde, ma non è facile, che c'entra facile, ma scusa, Berlusconi non ha adesso il paragone con Berlusconi, avanti, no, non dico, ecco il paragone con Berlusconi, dai, ecco il paragone ridicolo con Berlusconi, dai. ma chi vuoi, la casa di Monte Carlo di ma Berlusconi vive di contraddizioni, vive di contraddizioni, di falsità dette, ma che c'entra questo con i titoli di studio? Allora Berlusconi può vivere di contraddizioni, ma certo, no. Certo, non c'è dubbio, perché tutti le due cose sono due piani diversi. Quando la zanzarina tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana yo soy stanco, como una muchachita, baila col ritmo bueno, non le importa mucho, si no prendo sueno, non le importa mucho, si no prendo sueno, non le importa mucho, si no prendo sueno. Eccoci qui, Luigi dalla provincia di Frosinone, Telesia, ma dove stai andando, Luca? Io sono fermo. Sei fermo, ferma. Dì a Luigi, provincia di Frosinone, aspetta. Luigi, sì, dica. Buonasera, io la chiamavo per darle un sonoro vaffanculo in diretta. Ma bene, semplicemente, vada. Ottimo. Ma semplicemente per dirle questo. Sì. Dove sono le prime pagine dei giornali quando il signor Bersani diceva che non aveva rapporti, quindi il PD, con la Monte dei Paschi di Siena? Mm. Noi siamo il PD e loro sono la banca. Ma che c'entra, scusi? No, quando dicevano che le nomine per quanto riguarda la Monte dei Paschi di Siena non avvenivano attraverso il partito. Sì. Cino? Pronto? Cino? Pronto? Cino? Sì. Sono Cruciani, ciao, siamo in diretta alla Zanzara. Scusa, sento malissimo. Sono in diretta alla Zanzara? Cruciani, ciao. Pronto? Sì, sono Cruciani. Mi senti? Sei? Sono Giuseppe Cruciani, Cino. Ah, ciao Giuseppe, sento molto lontano. Dimmi. Ciao, siamo in diretta alla Zanzara, ciao. Pronto? Ciao. Mi senti? Sì, sì. No. Sì. Volevo chiederti una cosa. Leggo, Telesia, senti questa cosa qui, curiosa, forse interessante. C'ero anch'io, ho cantato anch'io lo Zecchino d'Oro, in un'epoca in cui quel programma era un punto di riferimento assoluto per chi era bambino in quei primi anni del boom. Era una passione straordinaria che accomunava tutti attorno al vestitino da mago di Cino Tortorella, a Marielle Ventre, al passerotto dal fiocco rosso. A parlare è Oscar Giannino, che dice di aver partecipato a uno Zecchino d'Oro. Ho cantato anch'io col Mago Zurri, quel programma mi fece capire che non ero destinato a lavorare in Fiat. Ascoltate ancora. Dice, fu un giovanissimo concorrente, anche se il suo nome nell'Albo d'Oro non lo troverete perché per ragioni familiari partecipò con le generalità di un altro parente. Per confidarsi pone anche la condizione di poter non indicare né quel suo pseudonimo né la canzone interpretata né il piazzamento. Non vorrei che Dagospia o qualcuno del genere ne facesse un tormentone. Caro Tortorella, è possibile presentarsi sotto altro nome allo Zecchino d'Oro? Senti, io questa cosa l'avevo già sentita e io sono andato a verificare. C'è un libro scritto da padre Berardo che ha elencato tutti i personaggi, tutti i bambini che ormai sono anche, qualcuno è già nonno addirittura, sì. E non c'è nessuno che si chiami nemmeno lontanamente Oscar Giannino, non lo so. E quello però lo dice lui stesso, ma c'è qualcuno, è possibile presentarsi sotto un altro nome? È successo qualche volta? No, assolutamente no, poi non riesco a capire la ragione, perché uno non avrebbe dovuto presentarsi col suo nome. Ma è mai successo qualcuno che ha cantato sotto un nome diverso rispetto a quello? No, c'è stato soltanto una volta, sì. Che c'era... una bambina che era la figlia di Ugo Tognazzi, sì. E abbiamo detto soltanto il nome, senza il cognome, proprio per non favorirla in nessun modo, per non favorire, sì, la sua canzone, però se uno fosse andato a verificare avrebbe visto che si chiamava Tognazzi, certo, cognome, Tognazzi. Dunque, si può dire che ti stupisce questa cosa che uno dica ho cantato anch'io lo Zecchino d'Oro, però sotto un altro nome per motivi familiari? Non riesco a capire perché, insomma, oltretutto è più difficile, è più serio dire ho cantato... ho partecipato allo Zecchino d'Oro che non aver preso un master A Chicago. Per cui si può dire che insomma è praticamente impossibile che abbia partecipato a uno Zecchino d'Oro, Giannino. Ma non riesco a capire la ragione, insomma. Ma la ragione chissà. Per cui ci puoi dire che non ha partecipato allo Zecchino d'Oro, insomma, presumibilmente. Poi io, per quanto mi risulti, no. E non capisco nemmeno perché. Che si possa dire, appunto, di aver preso due lauree e un master a Chicago, due lauree in Italia, sì. Ma dire ho partecipato, lo Zecchino d'Oro è una cosa seria, o mica un giochetto da laureati. Beh, appunto, appunto dico, no? Dai, dunque, uno si, no, lo so che stai scherzando, cioè si può vantare di aver partecipato allo Zecchino d'Oro, è una piccola medaglia, no? Se uno dice ho partecipato allo Zecchino d'Oro. Poi in realtà lui in quell'articolo là ti difendeva dicendo lo Zecchino d'Oro non può chiudere, il Mago Zurri deve rimanere, era il periodo in cui poi ti fecero fuori dall'Antoniano. Vabbè, caro Cino, grazie di questo ricordo. Sei andato a spulciare negli anni e nelle date e mi sembra che non corrispondano. Sì, ho sentito questa storia, sì. Sono andato a vedere, oltretutto lui è nato nel 61, sì. È una data molto importante per me perché è nato in quell'anno anche mio figlio. Sono andato a vedere e in quegli anni lì, negli anni 60 hanno partecipato personaggi importantissimi, sì, Popoff, sì. Per esempio, che tu non puoi ricordare. ma poi hai fatto un controllo, mi dicevi, anche sulla sua età e sulle date, e non risulta i nomi non corrispondono i nomi di residenza soprattutto, no, dei poi, bambini. Non so dove è nato. Credo a Torino, ma devo chiudere. Grazie Cino, grazie a Mago Zurlì. Telesi, hai capito? Luca? Ciao. Sì, ma io non ho mai negato che Giannino abbia detto delle cose non vere. Dico che facevamo parte di un personaggio, persino questa è una debolezza che lui paga, e in questo momento sono tutti geni del fact checking solo su di lui, ed è lui l'unico che paga, l'unico che si dimette, l'unico che si autodistrugge per queste panzane che ha detto. Quindi chapeau a Giannino, perché va via ma a testa alta. Va bene, grazie. Roberto da Piacenza, per chiudere. Roberto non c'è più. Francesco Cruciani, non c'è. No, ci sono. Vada veloce, 10 secondi. Velocissimo. Cruciani, da ex elettore di Giannino, quello che io non riesco a perdonargli è che quando è stato messo di fronte al fatto compiuto ha preso le distanze dicendo altri hanno scritto queste curricula. Lo so. Quando invece poi lei ieri ha fatto sentire che lui stesso aveva dichiarato. Lo diceva. Bravo, sì, Roberto, è così. Ciao David, ci sentiamo domani 18:30. Abbraccio a tutti. Ciao. What is commercialism? What is abona? Is a compliment Italian lady. Is Italian gentleman. Abona. Voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Appena prendiamo il potere chiudiamo la zanzara. Siete morti che camminano. Radio 24. La passione si sente.